Giuseppe Cruciani si guadagna da vivere a suon di querele, insulti, racconti ogni giorno alla Zanzara di Radio 24. È famoso per essere il Paganini della TV, la sua sublime Radio Belva ha ballato una sola notte. Il suo peggior nemico è chi mette in dubbio il suo curriculum di sciupa femmine. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quando devi prendere il treno notturno Milano-Vienna, ti rendi conto che il podcast della Zanzara non si è scaricato tutto e dovrai passare tutta la notte a sentire un ciccione che russa. Ragazzi, sabato di straordinario, sono solo in ufficio, podcast della Zanzara, grandi. Sette giorni, morirete fra sette giorni. Ti è, amico mio, ti è. Ma chi è sto cornuto? Ma che ne so, ti è. Cornuto. Lorenzo, ti avverto che dalle parti tue, in provincia di Padova, sì? Un signore, sì, pare molto anziano, ha messo un cartello davanti alla sua abitazione che recita in questo modo: sì? Se trovo un ladro dentro casa mia, lo uccido con la P38. Con la P38. E poi Lotaro. Che vuol dire Lotaro? Tutti. Lotaro? Sì, Lotaro. Sai che non lo so, non in dialetto veneto, effettivamente, ormai Lotaro. Comunque, la P38 evocava altre cose, veniva utilizzata in altri contesti. Anni 70. Anni 70. Molto bene, abbiamo iniziato questa trasmissione con un'evocazione fondamentale, che è la P38, strumento che si utilizzava in anni straordinari, quando qualcuno sparava una cazzata P38, arrivederci e grazie. Mi fa piacere dirlo qui, dalla radio della cosiddetta Confindustria italiana, di cui non si sente più notizia su nessun giornale, se non sul Sole 24 Ore, che attualmente è diretto dal signor Roberto Napoletano. A breve ci sarà una nuova direzione alla guida anche del suddetto giornale. Dottor Mario Capanna lo dirigerà in modo magistrale, dando molto più spazio ai lavoratori, agli operai e soprattutto a coloro i quali non timbrano il cartellino. Gesto straordinario che dovrebbe essere ogni giorno, come dire, evocato, rilanciato, sostenuto da un giornale che si chiama Sole 24 Ore. 24 ore di sciopero generale, compagni e compagni, lo voglio dichiarare qui alla radio. Oh, è uscito un libro fondamentale, il primo ricettario vegan per cani. Comprate, comprate, comprate. Ricette etiche. Poi che cazzo vuol dire ricette etiche? Non lo so. Ricette etiche e sane da preparare in casa, con consigli utili per rendere i propri amici a quattro zampe felicemente vegani. Il primo ricettario vegan per cani. Quelli che l'hanno ideato sono dei geni, quelli che lo comprano dei coglioni. Ragazzi, è iniziata la fine. Renzi ha venduto un pezzo di mare italiano alla Francia. Io la trovo una notizia meravigliosa. Fosse vera, la trovo meravigliosa. La dismissione degli... Tutti preoccupati. Ti ricordi i Tremonti quando voleva vendere le spiagge? Non me ne frega nulla di questa cosa. È una notizia bellissima. Diamo alla Francia tutto, via. È molto tutto, brutto, tutto, molto tutto, tutto, tutto. Gente arrabbiata. Un pezzo d'Italia, un pezzo di chi se ne frega. Girl, I was made for you. Parole definitive sul Festival di Sanremo, di cui per fortuna non sentiamo più parlare, sono state pronunciate da Roberto D'Agostino domenica dalla D'Urso. Adesso era, non è vero, era tutta, me... veramente era Sanremo la pazza, era. Cioè io non ho mai visto tanti froci messi tutti insieme. Roberto! Amico mio, numero uno assoluto. Perché la verità è questa: anch'io non ho mai visto così tanti froci come a Sanremo. Sarà un caso, la legge Cirinà, non lo so. Erano, c'è una concentrazione, soprattutto un mischione anche di gente la cui sessualità, che senso? Anche gente la cui sessualità non è chiara, ma per me è divertentissimo tutto questo. Cioè, non è che faccio un discorso alla Giovanardi o alla Gaspari che sono offeso da questo, me ne frego. Però è vero che casualmente, proprio nei giorni in cui si discute delle leggi, eccetera, eccetera, c'era una grande concentrazione di gaitudine. Allora, la settimana scorsa ci è sfuggita una cosa, caro Parenzo, ed era questa immagine meravigliosa che è stata rubata da un malato di video, da un ascoltatore, da un utente, da un cittadino, di Brunetta che si mette a trattare il prezzo dei calzini al mercato. Oh, una meraviglia quella cosa. Ma l'hai visto o no? Sì, certo che l'ho visto. Ma una cosa pazzesca. Io sul prezzo, tira sul prezzo, un grandissimo. Cioè, Brunetta grandissimo. Va a Porta Portese al mercato a comprare i calzini. O Porta a Porta, dov'era? No, a Porta Portese. Ah, quelli là non si comprano i calzini. Ah, non si comprano, scusa, vero, scusa. Sbagliato, non lo so, mi sono sbagliato. Cioè, io, a parte il fatto che Brunetta che va a comprare, adesso uno lo può ma no, ma dai, ma vai sotto il Parlamento e prendi le due calzini a 20 euro ciascuno. Stupendo, dai. Perché ecco, no, questo è il Brunetta che ci piace. No, c'è il Brunetta dai. Della decrescita. Questa cosa della del finto povero, risparmio consapevole, risparmio voluto. Renzi ci ha distrutto, massacrato, ha tolto i soldi agli italiani, noi glieli ridaremo, ripartiamo dai mercati. Le calze bucate, le calze a 1,20 euro e ne compri tre e quindi risparmi e quindi fai economia. Ma e quindi dai, io sono Nobel su. E quindi vai a fare in culo tu, Renzi, il governo, la riforma lo fa Madia. No, Madia, ma io l'ho fatta la riforma. C'entra perché fannulloni che hanno venduto i calzini con lo sconto, fannulloni cretini, non hanno timbrato il cartellino e io li pago meno i calzini perché non hanno timbrato il cartellino. Cretino, non mi interrompo perché io ho fatto la curva di Laffer, tipo, cretino tu che non hai scritto sul giornale che Renato ha introdotto, cretino, una nuova legge, una nuova norma. Ma cosa quando vai a comprare i calzini alla banchina, devi fare lo sconto a Brunetta del 32,2% perché Renzi ha imposto le tasse e l'IVA sui calzini che noi avevamo tolto con Tremonti. Ho tolto l'IVA dei calzini. Voi l'avete ripristinata, avete rimesso, tolto l'IVA sulla prima casa, tolto l'ICI, l'IMU, l'ICU, l'INI, l'INAIL e noi l'avete rimessa. Ma che c'entra con e i calzini? Noi, Renzi, no, fammi parlare, che sei diventato un comunista renziano, come il pensiero unico, quello che c'è in tutto questo paese, pensiero uno. E adesso mi fai parlare, quella Radio 24, Radio della Confindustria, Confindustria sono io, ho un'impresa. Questo ragazzo di Brunetta parla senza interruzione. Allora, vabbè, Brunetta, la cosa incredibile, a parte che per me è una follia, vai sotto il Parlamento, spendi 20 euro, non fare il finto povero al mercato di Porta Portese. E poi ti metti a mercanteggiare, vabbè che Porta Portese, d'accordo, è quasi istituzionale, è quasi normale andare a mercanteggiare il prezzo dei calzini. Amico mio, ti chiedono 17 e alla fine io vuoi da 14, 13 e riesci ad arrivare a 15, ma dai, su, ma dai, se 17 euro, no, per tre paia di calzini o tre... Ma nemmeno tre paia, credo tre coppie da due, una cosa non di questo so, tipo. Sì, sì, mi ricordo. Roba incredibile, dai. Cos'ha di colore? Blu quanti ne ha? 4 più 1, 5, poi cos'ha ancora? Sempre del 39, no, basta. Basta. Mi sono grande. Allora mi dai 5 e mi faccio super sconto però. 17. Come? 17. No, 17. Sono 5? 17. 2,7. E lo sconto? E lo sconto? Sì. E lo sconto? Dai, e lo sconto? Comunque mi viene il dubbio che non siano per lui, perché credo 39 di piede. Sì, è possibile, Brunetta che porti 39. No, sì. Lo so questo. Sì, 39, sì, è possibile, dai. È basso però 39. Basso ho detto, non si offenda. Basso ho detto. Bassino. Anch'io ho il 39 di piede, che c'entra? Ma tu sei più alto di Brunetta però. Beh, te credo. O no? Beh, te credo. Direi. Sei poco più alto di Brunetta, secondo me. Sei ma di poco dici? Più alto. Sì, sarai 5 centimetri, dai. 5. Tu, ma io sono 1,74, ragazzi. Tu sei 1,74? Ma che io cazzo dici 1,70? Di ma vattene, ma che dici? Va? Ma sì, sei sotto 1,70, non dire minchiate. Sei dai. Matto. Ma sei sotto 1,70, non dire stupidaggini, dai. Sono vegetariana ed è molto più salutare, credetemi. Questa la voglio utilizzare come sigla. Come sigla, signora del bufalo. Ah, la signora del bufalo abbiamo già messo, Parenzo, No, no, sì, ma è andato. Le iene aggredite a Radio Maria, ragazzi. Le iene aggredite da sconosciuti che però erano dentro Radio Maria, dentro Radio Maria. Questi qua non sono proprio così, come dire, no, caritatevoli, non sono così buoni, non sono così cristiani, non sono così compassionevoli gli amici di Radio Maria, no? Oh, oh, oh! Basta, basta! Vai, impazzito! No! Ehi, stai fermo! Ma è impazzito, signori! Per favore! Ma signori! Per favore, teniamo continuo! Ma stiamo scherzando! Aspetta di riprendere! E lei la smetta di venirmi addosso! Ma signore! Fuori da quest'area! Ma stiamo scherzando! Ascolta. Signori, ma stiamo scherzando! Ma mi ricordo... Madonna! Ma per la misericordia! Signori! Signori, ma questa cosa ho fatto malissimo. È sconvolgente, signori! Signori, questa cosa è sconvolgente, ok? Ci hanno picchiato a Radio Maria! Questa cosa... Ci hanno picchiato a Radio Maria! Anni i tuffatori abbiamo preso legnate a Radio Maria! Questo è indecente! Allora, novità dal signore... Novità dalla radio. Qui di seguito il comunicato che stiamo difendendo sui conti della radio nel 2015. Come vedete, il risultato economico è eccezionalmente positivo. Date i soldi a Parenzo. È stato raggiunto in primo luogo grazie alla qualità del prodotto che ogni giorno realizziamo. A nome mio e del direttore, volevo ringraziarvi per il lavoro svolto e anche per l'impegno e la passione che dimostrate ogni giorno. Firmato Sebastiano Barisoni, vice direttore esecutivo Radio 24. Titolo del comunicato: 2015 da record per Radio 24. Crescita dei ricavi più 20%, silenzio e boom delle beat. Per la prima volta risultato operativo positivo, la raccolta pubblicitaria doppia il mercato. Senti, ti faccio sentire sti mamma adesso, ti faccio no, ma ti faccio sentire l'imam, un tale che è l'imam della moschea di Centocelle a Roma. Centocelle a Roma. Ora, io non so se questo qua è italiano. Non so se questo qua è italiano. Ma oppure posso dire italiano? Cioè, se ha la cittadinanza. Sì, se ha la cittadinanza. Penso di sì, ah. L'imam di Centocelle, non lo so. Direi, sì. Però prima sentiamo quello che dice. Gli atti dei gay sono contro Dio. Senti. Cosa dicono Corano e diritto musulmano rispetto alle relazioni omosessuali? Sono vietati. Sono considerate delle cose gravissime, quindi trasgressione gravissima alle regole, alla legge islamica. Sono degli atti contro Dio, possiamo... Contro Dio, sì. Gli atti gay sono contro Dio. Cioè, questo signore di religione musulmana, forse italiano, l'imam della moschea di Centocelle, sostiene che gli atti dei gay sono contro Dio. Poi dice anche che è giusto il reato contro i gay, cioè bisognerebbe mettere dei reati, immagino, contro gli omosessuali. Beh, cioè, ma in questo non la pensa diversamente dai suoi colleghi con la tonaca nera, diciamo. No, reato, questi non, formalmente i reati non li vogliono, poi magari li approverebbero, no? Però formalmente non dicono che bisogna mettere i reati contro i gay. Cosa pensa di quei paesi in cui essere gay è un reato, è proprio contro la legge? È giusto, secondo me. È giusto. Allora, questo Mohammed, Ben Mohammed, come diavolo si chiama? Ben Mohammed. Sei italiano. Pronuncia bene, Ben Mohammed. Sì, però perché non va a fare in culo fuori dall'Italia e se ne va? Questo? Beh, amico mio, se ti piacciono i reati contro i gay, vai a abitare in Arabia Saudita, vai in altri posti dove sono previsti e non rompi i coglioni qui in Italia. Vai via dalla moschea di Centocelle. Se sei italiano, mi dispiace, vai a vivere in paesi dove ci sono i reati contro i gay. Scusami, amico mio, non è che si può sopportare che uno che è imam della moschea di Centocelle dice ci vogliono i reati contro i gay. Prende, come diceva una volta, come si chiama, Prosperini, prendi la tua barchetta, ciapa il barchetta, vai via tutti a casa. Esatto, ciapa il camello. Traffico veicolare. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta La Zanzara. ...35 minuti di fila in circonvolazione a Catania, cioè sembriamo delle pecore, tutti in fila come degli stronzi. Poi vi immaginate come si guida a Catania, la situazione che c'è a Catania. È uno schifo, me ne scapperò. Notizie da Reggio Emilia, dagli amici di Cutro, i calabresi di Cutro. Alfonso Mendicino, della famiglia Mendicino, accusato di estorsione all'interno di un processo di 'ndrangheta, protagonista di una delle puntate della settimana scorsa della Zanzara, caro Parenzo. Ma certo, estorsione, una brava persona. Dai. Ha scritto su Facebook. Ma una piccola estorsione, ognuno l'ha fatta, dai. Buonasera amici, mi ha chiamato Radio 24 e mi ha chiesto di questa vicenda, però non volevano sentire la verità, mi cambiavano sempre discorso. Volevano che dicevo fanculo l'ndrangheta. Lui scrive la 'ndrangheta, vabbè, tu ci sarà sbagliato. Questo. Beh, no, veramente tu. Però no, comunque, no, no, tu, io adesso lo chiamo. E gli ho detto questo mai e gli ho chiuso il telefono. Nel video poi che io ho visto molto attentamente, perché dici questa cosa che l'ndrangheta non esiste? Cioè, non è che non esiste, però pure che esiste, loro ci hanno mangiato i reggiani. Ma quella hai detto allora diciamo insieme fanculo l'ndrangheta. No, questo vai. E perché? E come no? Fanculo l'ndrangheta, urliamolo! Fanculo l'ndrangheta. No, no, questo vai. Come questo vai? Ma diciamolo, vaffanculo l'ndrangheta, pezzi di merda. Ma scusa, perché non vuoi dire con noi fanculo l'ndrangheta? È importante perché questo. No? No, no, no, no, non lo dirò mai nella mia vita. Ma perché l'ndrangheta fa anche delle cose buone? La saluto, arrivederci. Ma, ma come la saluto? La saluto, non c'è niente da aggiungere. Ma che saluti, amico mio? Oh, amico mio, no, amico mio, no. La precisione, io non mi sottraggo mai. È Parenzo che gli chiede di. Sì, questo è vero. È Parenzo che gli chiede. Sì. Devi dire vaffanculo alla 'ndrangheta. È Parenzo che comunque, glielo chiede. Comunque, se ha bisogno, caro. Come si chiama questo? Ah, no, Mendicino. Però la responsabilità mia è tua al 50%. No, no, comunque, se l'ndrangheta vuole venire a cercare qualcuno. Se vuole Giuseppe Cruciale, le do l'indirizzo di casa. Si sa no, mai. Ma comunque, che è pazzito. Ah, ma lo cercassero da sole, almeno fagli perdere 10 minuti. Gli diamo il cellulare? No, il cellulare no. 3-3 Monterosa 91. Monterosa 91 no, 20-140. Tanto lo sanno, dai. Cioè, per gli amici dell'ndrangheta di Cutro, io non dico sì, che questo qua è dell'ndrangheta, no, per no, gli amici della famiglia Mendicino, Monterosa 91 20 149. Tra l'altro abbiamo raccolto. Ma tutto bene, Giuseppe. No, quello là è siciliano, non è calabrese. Abbiamo. Ma tutto bene comunque. Ma no, ma va benissimo. Abbiamo perché una. Perché torni a casa sempre alle 21.05? Se la trasmissione finisce alle 20.50. Esco perché esco 10 come minuti. Come mai alle 21.05 e il mercoledì alle 21.25? Come mai? Allora, abbiamo un altro messaggio mandato da questo tizio Mendicino al consigliere regionale Gabriele Del Monte. Un grafoma lui, messo lui sostiene. No, no, messaggio vocale, non è grafoma. Vocale. Lui sostiene che non si tratti di minacce. Sentite, no, fate voi. Cos'è? Ma dite voi, esprimete un'idea. Tu sai che politico sei? Il politico del cazzo sei tu. Il politico dei porci, dei maiali, dei comunista. Quello sei tu, quello sei tu politico. Tu sei un politico del cazzo. Non sono minacce. Non sono minacce, caro no, Parenzo. Ma con questo accento, come dire, no? Di Cutro, per carità, detto con tutto il rispetto. Detto con tutto il rispetto. Da uno che dice che l'ndrangheta ha fatto del bene a Reggio Emilia. Da uno che dice che l'ndrangheta non esiste. Se uno, se ti arriva a te questo messaggio, che fai tu? Cioè dici no, vabbè, ma chi se ne frega. Se ne arriva a me, vado immediatamente in procura. Ma non alla trasmissione, un giorno in procura. Proprio in procura, procura, quella della Repubblica. Fernando da Padova, vai Fernando. Sì, pronto. Dimmi, dimmi. Volevo solo dire che il discorso della P38, poi lo taro. Volevo precisare che lo taro vuol dire lo seppellisco. Ah bravo, è vero, è vero, è vero. Lotaro, bene, Parenzo ormai si è scordato, non sì, sì, no, no, è vero, scusami, non è vero. Non è più Padova. Non è, ha rinnegato Padova. Da quando c'è Bitonci si è dimenticato anche il dialetto padovano, Parenzo. Ecco, da quando c'è Bitonci, purtroppo sì, questa cosa. Sì, no, cioè, volevi sì, dire solo questo? Sì, sì, cioè, che significa che vi ascolto. Vi seppellisco. Ti sparo con la P38, tu ladro, se entri questo vecchietto, ti sparo con la P38 e poi ti taro, ti seppellisco. Come cazzo facevi a non saperlo, Parenzo? Taro non me lo ricordo. Bravo. No, comunque gentile è stato ricordarcelo. Domenico Milano, vai. Sì, pronto? Dimmi Domenico, dimmi. Allora, lascia stare la P38, Cruciani. Ti voglio no, ma veramente non sono io che ho la P38, è il vecchietto di Padova, amico mio. Ti do uno scoop, a te e Parenzo. Il Sole 24 Ore ha pubblicato un libro che si chiama Pussy Cat, cioè Pussy Cat inteso come taglio, no? Mm. riguarda tutte le possibili pettinature che le donne moderne si possono fare nella zona, diciamo, bassa. Ma questo quando l'ha fatto, scusami? Possibile che non so nulla di questa cosa qua? Non lo so di preciso, comunque so che c'è questo libro pubblicato dal Sole 24 Ore. Vabbè, lo volevo consigliare a te e a Parenzo. Beh, diciamo che sarebbe un ottimo argomento da utilizzare contro il detrattore di questa trasmissione, diciamo, no, caro Domenico? Comunque verificheremo, grazie. Pussycat, tu l'hai divorato, naturalmente. Domenico, sei andato. Ulisse Torino, dai. Ulisse? No, no Torino, ma Treviso. Treviso, vabbè, uguale. Vabbè, insomma, non è grave. Volevo chiedere se c'è lì all'ascolto il Cicisbeo di Parenzo. Sì, Cicisbeo c'è, sì, quello che tu chiami, cioè, Cicisbeo esiste. Lei si chiama, io sono Parenzo, buonasera. Vai. Buonasera, io Ulisse, io sì. Ulisse da Treviso. No, volevo, Cicisbeo mi pareva lei. Sì, no, tu Cicisbeo. Parenzo, dai, ragazzi, molto forza, lieto. Dai Ulisse, vabbè, dimmi, dai. Sta a sentire. Ogni qualvolta sento Cicisbeo, sì, Parenzo, sì, esprimersi, perché poi è un tuttologo, lui si esprime su tutto, su tutto. Discetta qualsiasi, sì, ma quello anch'io, fa venire, sì anche tu, però lui dà più fastidio, Vabbè, allora no, volevo ricordargli quel detto che sì, chi sa fa, chi non sa insegna. Ecco, lui siccome tutte le sere insegna, pontifica, lei cosa fa invece? Tante cose, lavoro. Vabbè, chiedo, allora, per dunque, esempio, cosa che tu non hai mai fatto. Ecco, mai. Non lo si sopporta più. Io sono pagato da stronzi come lei, ad esempio. Cioè, la cosa meravigliosa. Hai visto? No, ma la cosa meravigliosa è che io sono indirettamente pagato da stronzi come lei. Ma di questo, tu che parli di operai, ne hai mai, sì, visto uno? Certamente, ma al di là di questa la polemica, sono pagato anche da stronzi come lei che ascoltano la trasmissione. Vabbè, ragazzi, comunque chiudiamo qua perché dobbiamo chiudere per forza. Tra l'altro, Pussycat, manuale di giardinaggio pubblico, effettivamente esiste come libro. A più tardi. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La Zanzara. Io non mi incazzo più perché so che nell'aldilà Parenzo starà in una villa bellissima, enorme, piena d'argenteria, opere d'arte, tutto preziosissimo, e tutti i giorni verrà perennemente svaligiata da rom, albanesi, ucraini e slavi in genere, e lui chiuso nella sua cameretta terrorizzato che chiamerà il 113 e il 113 non risponderà mai per l'eternità. Tu. Contro tra Vittorio Feltri e Vincenzo Danna a Fuori Onda da Parenzo and Labate. Con una L, Labate. Sì, Labate. Non Labate. No, Labate, ho detto, non rompere i coglioni. Allora, qual è l'argomento in discussione? Feltri che dice i politici sono dei fannulloni, eccetera, eccetera. Lei evidentemente non solo non sa parlare, ma non sa neanche ascoltare. Guardi, non devo venire a scuola da lei. Lei è più saccente che intelligente. Mi pare intelligente. Proprio di sì. Lei è più saccente che intelligente. Perché dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Si mette dietro lì con la pipa e pensa di essere un pensatore. Faccia il giornalista, non il moralista. Come fa a dire una baggianata, sì, del genere? Che non interessano a nessuno. Fact, le cose importanti non le fate. Del pubblico impiego, non le legge fa. Legge elettorale, riforma costituzionale. Sì, sì. Ma lei dove vive? Sì. In Val Brembana. Dice di stare a Milano. Come fa a dire che il Parlamento è immobile quando io le ho citato 5 leggi a memoria? Cosa vuole argomentare? Come on! Allora, c'è stata anche una polemica nel fine settimana, caro Parenzo, tra una ricercatrice italiana in Olanda e il ministro Giannini. Il ministro Giannini si è intestata, ha detto grazie per i risultati ottenuti da alcuni ricercatori italiani all'estero, eccetera, eccetera. Una ricercatrice dell'Aquila che abita in Olanda, si chiama Roberta D'Alessandro, ha detto: guardi, signor ministro, non è merito dell'Italia, anzi l'Italia non ha fatto nulla per aiutarci, siamo dovuti andare all'estero, la solita polemica sui cervelli all'estero. Però ho sentito in televisione questa Roberta D'Alessandro ed effettivamente dice delle cose molto ragionevoli, delle cose giuste. Dice: in Italia, io non ho nulla contro quelli che fanno ricerca in Italia, in Italia ci sono molti più posti dati in percentuale per meriti non accademici, cioè raccomandazioni, clientele, legami, politica, relazioni, perché questa è l'Italia, rispetto ai meriti. Ed è così, non è che è tutto così, cioè non è che il merito non esiste, però in percentuale rispetto ad altri paesi, dice questa, e ha ragione secondo me, in percentuale il tasso di persone che occupano posizioni per meriti non di studio, non accademici, non di cose che hanno fatto, che hanno scritto, ma semplicemente perché conoscono il figlio di, perché sono figli di, perché conoscono quel professore, eccetera, eccetera, è molto più alto rispetto agli altri paesi. Quello che sostengo e che ho sempre sostenuto è che la percentuale di posti assegnati per meriti non accademici in Italia è più alta rispetto a quella dell'estero. Parentele, amicizie, parentele, amicizie, parentele, amicizie. No. Quali sono i meriti non accademici? Di solito le relazioni sono le parentele, le relazioni, le amicizie, ma anche le sponsorizzazioni dei propri studenti. Purtroppo è così, la realtà è questa. Parenzo, torniamo un attimo sul calcio, va. Ti voglio far ascoltare un tizio. C'è Auriemma? No, non c'è Auriemma, c'è un altro non che ti piacerà, un tizio che si chiama Chiariello, di una televisione privata napoletana. Gustoso. Il signor Chiariello, che dice che il campionato è irregolare, perché l'autore del gol che ha contro il Napoli, Zaza, l'autore del gol della Juventus, Napoli-Juve, non poteva giocare perché andava squalificato per due giornate. Senti questo signore, si chiama un tale Chiariello. Chiariello, molto bene. La partita di ieri è stata irregolare, la vittoria della Juve è irregolare, è un campionato irregolare. Perché chi ha segnato? Me lo dite? Zaza, sì. È un autogol, però il gol viene attribuito a chi? A Zaza? Perché il Zaza è stato espulso, mi sbaglio, con espulsione diretta due domeniche fa in campo? In questi casi si danno due giornate di squalifica. Zaza non poteva giocare la partita di ieri. Io non condivido che un giudice sportivo abbia dato una sola giornata a Zaza quando per espulsione diretta in campo rosso diretto si danno due giornate. Io contesto che la Juve abbia potuto impiegare Zaza. Io contesto. Da chiamare questo. Signor Chiariello. La roba incredibile, guarda, incredibile. Sergio da Cagliari, vai, 800 24 00 24. Voglio lanciare, caro Parenzo, una grande cosa. Voglio lanciare... Aia. Ci siamo. Volete sbattezzarvi? No. Sì. Basta, mi sono rotto i coglioni. Volete sbattezzarvi? Non ne potete più del Vaticano e della religione cattolica? Ma perché? Bagnasco vi ha fatto incazzare più di quanto non abbia fatto incazzare Cruciani? Ma perché? Bagnasco è l'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso con le dichiarazioni che ha fatto sul Parlamento italiano, sul voto segreto? Non ne potete più della religione, in particolare della religione cattolica? Siete battezzati perché ve l'ha imposto vostra madre, vostro padre o i vostri genitori? Beh, amici miei, amici della Zanzara, popolo della radio, chiamateci. 393, chiamateci, mandate un messaggio o chiamateci. 393 71 71 701 per i vostri messaggi WhatsApp. Chiamateci e vi daremo una mano a sbattezzarvi. Ma come, io, a parte che io non sono battezzato, potete tranquillamente togliervi dall'elenco delle persone battezzate, potete rompere ogni vincolo con la religione cattolica che vi hanno imposto dalla nascita senza la vostra consapevolezza. Noi vi daremo una mano, noi vi aiuteremo in questo percorso che non è difficile e credo nemmeno tortuoso, nemmeno complicato psicologicamente. un percorso normale, tranquillo. Noi vi daremo una mano, contatteremo le vostre parrocchie, ritireremo i vostri certificati di battesimo, li bruceremo se volete. Ma come, mamma ancora di radicale lo faceva, scusa. Ripeto, 800 24 00 24, il solito numero, 393 71 71 701. Lasciate i vostri messaggi WhatsApp, chiedeteci una mano per sbattezzarvi, noi saremo lì a darvi una mano con tutte le indicazioni, con gli esperti, chiameremo le parrocchie, dateci i certificati, c'è gente che non ne può più, in particolare dopo quello che ha detto Bagnasco. Sergio da Cagliari, dai. Ma qui è in atto un'opera di scristianizzazione. No, ma che stai facendo? Vedo che però sei un po' contento da questo punto di vista. Tu vorresti un'Italia ebraica. Un'Italia interamente ebraica. Ma non è, ma stai diffondendo notizie? Ma assolutamente no. Sergio Cagliari, vai. Tant'è che per diventare ebraico è difficilissimo. Buonasera. Vai, grazie, Sergio, dell'opportunità. Mi spiace per lei, ma io sono un cattolico e felice. Bravo. E vabbè, ma infatti mica ho detto mica è obbligatorio. No, ma infatti. Glielo dico, quello bravo. Che volevo dirle io era una cosa, siccome vi seguo spesso, sì. È da quando si parla dei diritti degli omosessuali, sì. E beffeggiate chi è contrario. No, assolutamente io, no, da, vabbè, assolutamente, dai, c'è tutto capitato, il diritto, sì, sì. C'è tutto il no, diritto di essere... La domanda che voglio farle io, provocatoria ovviamente, sì. Ma per questa libertà sessuale che tanto si inizia e si deve rispettare, tra 10 anni scenderanno i pedofili a manifestare la loro libertà sessuale. Ma cosa c'entra questo adesso? No, spiegami, c'entra. Spiegami Sergio, cosa no, c'entra la libertà sessuale con la pedofilia, amico mio? Cosa c'entra? Guardi, cosa c'entra la libertà sessuale con la pedofilia? Allora, la storia ci insegna che l'omosessualità esiste da tempo dei romani, dei greci e dei E allora? Allora io le ricordo, lei si potrà documentare, sì, cosa? Ecco, che gli egizi quando avevano esperienze omosessuali lo facevano con i ragazzetti, i cosiddetti minori, quelli che chiamiamo oggi. Cioè tu stai dicendo che c'è un legame stretto tra essere omosessuali e pedofilia? No, no, no. No, quello stai dicendo. No, amico mio, tu stai dicendo quello. Siccome lei inneggia alla libertà, che io posso essere anche d'accordo, alla libertà anche di ognuno di noi, allora io le sto dicendo, per la libertà mentale, ed è una domanda che è provocatoria, tra provocatoria. Una decina d'anni che l'evoluzione dell'uomo e la mentalità dell'uomo sarà più aperta, cosa faranno? Ci troveremo i pedofili in piazza che vorranno una legge che li tuteli per la loro sessualità? Ma cosa c'entra? Che c'entra la libertà sessuale con la pedofilia? Quello è un reato, quella è una violenza nei confronti di persone che non sono capaci di intendere e di volere. Anche in Russia è un reato penale l'omosessualità, come era nel tempo. A parte che non è vero, era la propaganda omosessuale un reato. Mi scrive Toscani che si vuole sbattezzare, è il primo. Il fascista era un reato avere rapporti omosessuali, e in Russia è un reato penale avere avere rapporti omosessuali. Vabbè, in Russia, allora, è reato la propaganda omosessuale. Mi sono documentato. Per carità, va bene. Nel periodo fascista era un reato essere omosessuali. Questo che vuol dire? Può darsi che sia così, ma questo non vuol dire nulla. Lei me lo conferma o non me lo conferma? Probabilmente sì. Ma allora? Allora le sto dicendo che non c'entra niente, proprio per dirle che non c'è un legame tra omosessualità e pedofilia. Io sto dicendo. No, tu stai dicendo che si sbeffeggia tanto chi è contrario. Che poi la libertà sessuale e la libertà di opinione credo che abbiano lo stesso valore. Ma cosa c'entra la libertà sessuale con la pedofilia? Cosa c'entra? Uno può essere libero sessualmente di andare con gli uomini, con le donne, male, con chi voglia. Non mi faccio capire da lei. Sono io che ma mi no, hai, male, hai chiaramente fatto un legame. Anche l'avvocato Trucco si vuole sbattezzare. No, è lei che vuol fare un legame. Arrivano messaggi. Io sto dicendo. Vabbè, senti, mi hai rotto le balle, Sergio. Vincenzo da Roma, dai, forza. Hai capito che arrivano segnalazioni di richieste, ma certo, di sbattezza. Qui centro per sbattezzarsi. Allora, Oliviero Toscani mi ha scritto 19:25 e voglio sbattezzarmi Oliviero. Poi c'è l'avvocato Emilio Trucco che dice: meno importante di Toscani, ma mi sbattezzo anch'io. L'avvocato Trucco, benissimo. Un altro di cui non posso dire il nome che mi chiede che se le confessioni. Benissimo. No, mi chiedono, ma le confessioni cadono in prescrizione? Mi chiede un altro illustre ascoltatore. Va bene, Vincenzo da Roma, dai, forza. Illustre. Vincenzo. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. Comunque rivolgetevi a noi, se volete sbattezzarvi vi diamo una mano. Ma cosa vuol dire? Vi diamo una mano. Un'opera di scristianizzazione, sì, proprio ottimo, stai facendo. Stupendo, buonasera. Stupendo, meraviglioso. Vincenzo da Roma, dai. Saluti anche a l'amico. A chi? Al tuo amico. Saluti a chi? Il tuo amico. Al mio amico chi? Vincenzo. Il tuo amico David. Ah, Parenzo, sta qui, ecco, salutalo tu, saluti, dai. Allora, io ho un pensiero stasera da... Dimmi. Da un pensiero. Non esagererei, comunque, vai, vabbè. Dimmi, dai. Un pensiero è che è dedicato allo stronzo. Sì, allo stronzo chi pensiero. Sarebbe? No, lo stronzo inteso come... gioca un po' sul doppio senso, lo stronzo... Tu hai un pensiero da dedicare allo stronzo che sarebbe Parenzo? No, no, in generale, sugli stronzi. In generale, sugli è stronzi. Una riflessione. Aspetta un attimo, Vincenzo. Io non userei parole come pensiero e riflessione. Hai questa voce un po', come dire, stanca, quasi, no, quasi funerea, direi, funerea. Però vediamo se in qualche minuto di borsa, non credo per la borsa, si risvegli questa voce. Però dovete cominciare prima, almeno alle 6, perché io fino alle 6 e mezza mi rompo i coglioni. La Zanzara. Allora, mi chiamo Luca e sono alcolizzato. Mio fratello è malato di schizofrenia, mia sorella è bulimica. Insomma, come dire, casa mia la prova vivente è che la famiglia tradizionale genera disadattati come qualsiasi altro tipo di famiglia. Allora, un tizio mi scrive, come tanti, dalla parrocchia di Colunga di Castenaso, provincia di Bologna: sono pronto per uscire dai libri contabili dei cattolici. Cominciano ad arrivare richieste su richieste, caro Parenzo. Qui l'opera di come si dice? Di sbattezzo. Sbattezzatevi con la Zanzara, bellissimo. Mi sono esaltato per questa cosa. Sbattezzatevi con la Zanzara. 393-71-71-701, scopriremo la vostra parrocchia. Io per esempio non lo sapevo fino a poco tempo fa. Ma non ho capito, scusami, metti a disposizione l'ufficio legale del Sole 24 Ore? No, quello no, quello non potrei mai. Non lo so, come metto a disposizione tutta la nostra, come dire, piccola ma vigorosa sì. Potenza mediatica. Per sposta andare... Mercù su questa iniziativa, è l'ottimo Andro Mercù, lo metti a disposizione un ufficio, l'ufficio Mercù, apriamo. No, non esageriamo. No, meraviglioso. Ufficio sbattezzo. Ufficio sbattezzo, direttore dell'ufficio, viene nominato Andro Mercù, direttore da vecchio, generale. Da vecchio ebreo questa cosa ti esalta, da vecchio militante ebreo vecchio questa cosa ti esalta. Non mi esalta per la niente, non diffondere. No, ma non mi riguarda, non mi riguarda perché come no? Siccome la decirconcizzazione non si può fare... Cioè non si può tornare indietro, esatto. Lì una volta che sei circonciso non puoi rimetterti a posto. Beh sì, volendo sì, come no. Beh, no, sì. Ma è impossibile da un puoi punto fare di... un'operazione sì, per rimetterti no. Il filetto ma del pisello. Ma da un punto di vista puoi fare quello che ti va, dal punto di vista ebraico, però non è che dice tutto. Non sono più anzi ebreo. Sarebbe interessante questa cosa qua. È interessante capire. Oddio, se qualcuno non volevo darti delle notizie, se qualcuno no, se qualche medico, se qualche chirurgo estetico è stato interpellato sì. Da uno che si è rotto le balle oppure non voleva essere. Non esiste. Scusa, ma adesso diciamo la verità, tu hai fatto come si fa con i bambini piccoli quando vengono battezzati, cioè hai, credo, circonciso tuo figlio, giusto? Ci mancherebbe altro. L'hai circonciso, cioè gli hai tolto il figlio. Ma ci mancherebbe ma poveraccio, ma se uno non vuole essere circonciso, scusa. Ma ci mancherebbe altro. A quanti mesi gli hai tolto il filetto? Intanto si toglie per legge ebraica. Ma per legge ebraica, ma è una tortura quella là, una specie di tortura che viene inflitta ai bambini. Intanto è una tortura un no, cazzo. No, no, no, su questo... La circoncisione è un atto di purità. No. Adesso Toscani, via sms ci dirà la sua. È un atto di tortura nei confronti dei bambini. Ti tiene pulito. In prospettiva, se vuoi saperla tutta, ti fa anche durare di più. Pure la depilazione. Come te. Pure la depilazione. E per gente come te che ha problemi a essere circonciso ti aiuterebbe perché ti aiuta nella durata. Perché ma quello lo dici tu. Lo dicono i medici. Allora, Parenzo, due punti. Se sei e circonciso, poi... duri di più. Ma verificheremo. Ma Parenzo, ragazzi, sono Parenzo, due punti. Se sei circonciso, duri di più. Sono gli scienziati. Ma non è vero. Questa qua è una notizia falsa e tendenziosa. Che verificheremo. Allora... E allora io invito Toscani a mandare un sms a Parenzo, come ha fatto prima. Dicendo anche la circoncisione in età ovviamente praticamente natale, cioè da infanti è un'ottima, ma questo no, è una tortura nei confronti dei bambini, assolutamente un'imposizione come esattamente il battesimo. Ma non è nessuna imposizione, è semplicemente il fatto che i genitori trasmettono ai propri figli una educazione, anche un'educazione religiosa e un'impronta la circoncisione, cioè certo. Tagliano il pisello alla circoncisione, ma è una cosa fondamentale, ma è una tortura nei confronti dei bambini. Ma bambini. Ma assolutamente. Ma milioni di Vincenzo da Roma stava, voleva recitare una poesia sullo stronzo, se non sbaglio. Una roba incredibile. Viene fatta passare una cosa religiosa, una tortura. Ma cioè il fatto che ti tagliano il filetto del pisello. Guarda che pazzesca sta cosa. Vincenzo, dai. Invidioso. Ma io non sono invidioso, penso che sia una tortura. Dai. Invidioso sei, che non hai tradizioni, senza Dio sei. Vincenzo, sei senza vai. Dio, sei un uomo arido, arido, putrido. Ti senza manca Dio. La parola. Eccolo qua. Giustamente Giorgio adesso. Grasso scrive una circoncisione, una vergogna. Bravo. Circoncisione. Sì. Giorgio Grasso, signor io, Giorgio Grasso. Io conosco Aldo Grasso. Giorgio Grasso. Vincenzo, dai, forza. Pronto. Ti manca la parola. In che senso, scusa? No, la molti ti somigliano, ecco. Ma nessuno è come te. Quando io, seduto, accovacciato, solo con me stesso, ti sento penzolare, tentenni, esiti, ed infine ti lanci. Plof! Com'è bello! Stronzo, oh stronzo, ti manca la parola, molti ti somigliano, ma nessuno è come te. Grazie. Scusa, chi è l'autore? Ungaretti. Ah, sei tu l'autore? No, avevo capito alla fine Brecht. Sì, Bertolt Brecht. Ma che cazzo ne so? Magari nella produzione. Sì, Bertolt Brecht. Allora, no, non ho capito bene. Allora, caro Vincenzo, la poi, siccome ci siamo un po' interrotti, ci siamo un po' fatti prendere da questo discorso sulla... sugli ebrei, no? La circoncisione, eccetera, questa sorta che io di tortura. Credo sia una cosa una anche utile. Vabbè, quello può essere, ma è una tortura nei confronti di un bambino tortura? Che non è cosciente e che non sa tutto quello che viene fatto tutto? Ai bambini. Ma anche a te ti hanno mandato a scuola, ti hanno imposto un'educazione e non sapevi, no? Quella è diversa, t'hanno non è che mi hanno tagliato il pisello, amico mio. Culturale, ah, avrebbero fatto bene, a parte che ti avrebbero tagliato i capelli. Nel tuo caso, ti avrebbero accorciato i capelli, che è uguale. Ma che c'entra, scusa? Perché sei la testa di cazzo, siccome è uguale, nel tuo caso avrebbero scorciato i capelli. Ah, sei un coglione. Ma che è così, Vincenzo, dai, guarda, forza. Vincenzo, ripetimela per favore. Sei discristianizzato. Fermi senza tutti. Dio, sei, fermi senza tutti. Mettete qualche musica. Musica papale, qualche musica di quelle. Alleluia. No, non una musica di merda, però. No, no, un alleluia. Bene. Bene. Ecco, vai, vai, vai, vai. Stronzo, ti manca la parola. Molti ti somigliano, ma nessuno è come te. Quando io seduto, accovacciato, solo con me stesso, ti sento penzolare, tintinni, esiti, ed infine ti lanci, plof, com'è bello. Stronzo, oh stronzo, ti manca la parola, molti ti somigliano, ma nessuno è come te. Grazie. Alfonso da Roma, vai Alfonso, vai. Alfonso? Sì, mi senti? Sì, dimmi, dimmi. Ah, perfetto, perfetto. Beh, perfetto, vai, non fare cadere così la poesia, il racconto, il ritmo, dai, Alfonso. Fate dimmi. Parlare la gente. Allora, infatti, siamo qui. Dico, perché noi dovremmo essere dei stronzi perché lo paghiamo per sentire quel coglione? Me lo spiega? Non ho capito bene, non ho capito. No, allora, Parenzo praticamente ha risposto a un suo ascoltatore che è uno stronzo e lo paga pure. Sì, uno anche stronzi come lui che hanno questo che pensano di me quello. Ma non potrebbe usare un altro dialogo con No. Io dico, ma come cazzarola si fa? Non è possibile usare un altro dialogo con certa gente. Lo so che è impossibile. Però dai, quando si esagera, si esagera. Con certa gente non è possibile. Dove si mangia, caro. Sì, però non puoi parlare distante dal microfono. Facci ascoltare, almeno facci capire quello che dici, Alfonso, dai. No, io sto dicendo che è un coglione perché lui non si può permettere di dire che noi che ascoltiamo siamo degli stronzi. No, no, non lo tutti. Parliamo. No, non tutti, amico mio. Lei, ad esempio, mi pare uno stronzo moderato da un certo punto di vista. Uno stronzo moderato. Okay. Sì, mi pare uno stronzetto, se vogliamo rimanere. Piccolo stronzo, diciamo. Esatto, sì, ecco, esatto. Un mentre quell'altro era ecco, e parla sempre sotto. Perché non lo fai intervenire direttamente? Va bene, sì. Antonio da Roma, dai, ecco. Antonio. Giusto, mi pare. Antonio? Non si capisce che sta facendo. Antonio? Fa i suoi comodi. Che sta facendo? È al cesso? Che sta facendo? Sta pulendo il cesso dalle secrezioni che ha fatto. Scusi, questa è la radio, amico mio. Antonio? Capisco che ha aspettato un po' di tempo. Pronto? No, ma sento dei rumori strani, come se stesse pulendo qualche cosa. Non lo so. Pronto? Aspetta, aspetta. Antonio? No, ma non sa di essere in onda, scusa. No, ma meglio, speriamo che venga fuori qualcosa, ma non credo. Antonio? Che venga fuori? Che ne so, cioè, parla con la moglie, qualche con la fidanzata. Ma che rivelazione, il Watergate. No, no, no, no. Dennis Lecco, vai. Dennis Verdini, bene. Meno ciao, male. Buonasera a tutti. Ma di solito vi chiamo Radio Paraculo, ma sì. Oggi vi chiamo Radio Perditempo. Vi lancio uno scoop. Che vuol dire Radio Perditempo? Scusa, non ho capito. Perché parlate di merda. No, di veramente cose. Non parliamo di merda, parliamo di tante cose. Di merda. Vabbè, in definitiva vi do uno scoop. Sì, quale dal sarebbe? Dal mese prossimo partirà per 100 piazze italiane il Pecoglioni Tour, cioè il famosissimo e bravo Salvo Mandarà, sì. Sarà in 100 città italiane. Ma chi se ne frega, lo possiamo aggiungere o no? Ma sai, lui porta informazioni molto interessanti. Ma lo possiamo dire chi se ne frega di questa cosa? Hai telefonato per dire hai telefonato per fare questa marchetta a qualcuno? No, perché perdete tempo, il paese va a puttane e voi sì. Parlate di merda. Ma noi parliamo di quello che ci pare. Noi parliamo di quello che ci pare. Se a te non piace, cambi. Sì, noi ci vergogniamo. Noi ci vergogniamo. Come una cosa normale. Noi ricordati che solo Mandarà. Sì. Cercate di invitarlo, che lo spiegherà lui quale sarà il suo sì, per carità, assolutamente. Ma il coraggio di farlo. Ma cosa? Ma di che parli? Ma di che parli, Dennis? Di che parli? Impazzito. Manda. Allora, è lunedì, è con noi Matteo Salvini. Buonasera. Buonasera, serata frizzantina mi sembra. Sì. Elettrica, amico mio, elettrica. Beh, il giusto. Io non mi sbattezzo però, perdonatemi. Bravo. Ma non mi sbattezzo. E vabbè, io mi sa che avvierò con consapevolezza questa, in realtà, non solo questa campagna per la sbattezzazione di chi vuole naturalmente, però anche della mia personale, cercherò, io lo sai, non mi ricordo... Credo di averlo scoperto oggi. Dove mi sono battezzato? Tu te lo ricordi dove ti sei battezzato? Hanno battezzato nella bellissima chiesa del Corpus Domini di fronte al Parco Sempione a Milano. Corpus Domini? Con mio amico Francesco. Cioè insieme vi siete col battezzati? Papa? Sì, nello stesso giorno. Poi abbiamo fatto l'asilo insieme, l'elementare insieme. Bello. Bello, bello. Senti, bello. Ma tu non eri quello che dicevi, a proposito, torniamo a parlare di politica, non eri quello che dicevi Bertolaso mai? Cioè, tu hai detto da noi, anche qui lunedì scorso, vuoi te lo faccio riascoltare? Anzi, facciamolo riascoltare. Hai detto, Bertolaso, no, i casini giudiziari, eccetera, eccetera. Aspetta, sentiamo. Bertolaso è una bravissima persona, efficacissimo, sia sui rifiuti a Napoli che sul terremoto all'Aquila. C'ha questa inchiesta e sai che cui? In Italia può essere la persona Bertolaso più politica no, del Bertolaso mondo, no. Ma se un magistrato ti punta sei finito. Da cui Bertolaso no, mi sembra Bertolaso. No, sarebbe allora i nomi... saremo massacrati. Saremo massacrati. Dunque, o te ne fotti. Il giorno in cui sono indagato per vilipendio alla magistratura. Sì, adesso ci andiamo. Proprio a puntino. Ma io ripeterei le stesse cose. Bertolaso è stato bravissimo. Dal terremoto alla pulizia di Napoli, alla protezione civile italiana, è un modello nel mondo. Qualcuno dice il contrario. Campagna elettorale con le inchieste in corso e con la magistratura alle caviglie sarà complicato, però a me le cose complicate piacciono. A me basta. No, capito, ecco, ma dicevi che non era il caso. Dicevi che non era il caso. Cosa è cambiato da una settimana? Ma io l'ho detto a lui e l'ho detto agli altri. Se gli altri mi dicono abbiamo letto le carte, non c'è assolutamente niente, piuttosto io oggi ho messaggiato con Bertolaso. Perché al di là delle vicende giudiziarie su cui giurano e spergiurano che non c'è niente, quindi io mi fido, non può dirmi che però i Rom poverini sono vessati e penalizzati, perché io ribadisco che chiunque voglia governare con la Lega i campi Rom vanno li chiusi. Rade al suolo e li chiude, punto. Però scusami, allora cominciamo a dire una cosa. Primo, ha problemi giudiziari e tu hai detto che questa qua era una cosa complicata da affrontare. Difende comunque. I Rom più di me. Difende i Rom più di me. Dice che ti punta. Vabbè, comunque se... Difende i Rom, cioè dice che non vuole... Ha detto, ha chiarito, ha puntualizzato... Cioè li vuole chiudere sti campi Rom o no? A Roma? Per te vanno chiusi o no? Io sì, e gliel'ho detto, per quanto mi riguarda, ma questo vale per Roma, per Milano, per Torino, per Bologna, i campi Rom non esistono in nessun paese d'Europa, chi governa con la Lega li chiude dal primo all'ultimo, punto. Tu, se io non so a che punto siano questi uno o due processi che ha Bertolaso, perché non mi occupo di queste questioni qua, ma se arriva una cosa pesante... Uno l'ho letto ed è incredibile perché... non ha preventivato e pronosticato il terremoto dell'Aquila. Ora adesso processato. No, ma va bene, d'accordo. Se cade un meteorite su Roma, l'altro? E l'altro è quello per delle vicende di massaggiatrici a Roma, se non ricordo male. No, ma ho capito. Se metti che arriva una condanna di primo grado, tu che fai? Dici che è meglio mettere un altro candidato? Mettiamo no, che ma io, no, signor, io quello che dico, lo dico in faccia. L'ho detto a Bertolaso, l'ho detto a Berlusconi, l'ho detto voi in radio a qualche milione di italiani. È bravissima persona, con dei processi da anni in corso e penso non per caso, in corso per allora... anni, ovviamente saremo attaccati. Cioè era meglio di no, era meglio di no. No, il candidato c'è, punto, viva il candidato, come Parisi a Milano, non sto lì a recriminare. E poi davanti ai giudici ce la giocheremo a carte scoperte. Parisi a Milano non c'è bisogno dei giudici, per fortuna, per fortuna vostra. Guarda, se ti candidi col centrodestra e con la Lega... l'indagine non te la toglie nessuno. Però non era il vostro candidato ideale, Bertolaso, diciamo la verità. Cioè, non era... c'è, io non candidato ideale sono io. Ah sì, quello sempre. Per definizione. No, ma non ho capito, nel caso di cosa? Nel caso di Parisi, per esempio, tu farai il capolista della Lega? Capolista della Lega, ovviamente, me lo chiedo, me lo faccio stravolentieri, perché ho fatto il consigliere comunale per tanti anni, lo rifarei gratis, volentieri, a partire da giugno. E quindi mi metto a disposizione. Capolista della Lega, e nel caso te lo chiedessero, l'assessore a Milano lo faresti? Mettiamo che vinci. Sì, l'assessore alla sicurezza. Guarda, Milano ha un corpo di polizia locale di 3.000 donne e uomini in gambissima, che per 5 anni da Pisapia sono stati usati per fare multe. Vabbè, io li impiegherei per fare sicurezza sui mezzi pubblici e nei quartieri popolari. Una visione diversa dell'utilizzo della polizia locale. Quindi lo farei a gratis a partire da domani mattina. Cioè, dunque, se dovesse vincere Parisi... No, sono compatibili, ovviamente. Cioè, parlamentare europeo e assessore a Milano, che ne so. Penso ma guarda, di sì. Ad esempio, io questa settimana vado a Bruxelles domani mattina con l'aereo delle 6.35, perché c'è la mia commissione alle 10, andrò a votare contro l'inondazione di tonnellate. Vabbè, di olio è compatibile, secondo te è compatibile? È assolutamente compatibile. Guarda, con 3.000 uomini di polizia locale a Milano, tu se vuoi, senza miracoli e bacchette magiche, un po' di pulizia, di ordine, di sicurezza ai comunque se dovesse vincere Parisi, tu sei disposto a fare l'assessore alla sicurezza? Mi metto a disposizione, sì. Ti metto a disposizione. Senti, a proposito della vicenda invece delle spese cosiddette pazze in Liguria, no? C'è un'inchiesta in corso, eccetera, eccetera. Allora, tu hai detto che la magistratura italiana è una schifezza. Sì. Confermi questa cosa qua? È una schifezza la magistratura italiana? Ma guarda, io ho chiarito che solo ci sono perché giudici hanno dei suoi che sono morti, per carità di Dio, che sono capito, in prima linea tutti i giorni, Camorra, 'Ndrangheta, ma purtroppo è pieno di giudici che lavorano poco, lavorano male, fanno sentenze assurde, liberano i delinquenti e quindi o la magistratura italiana cresce e fa pulizia al suo interno perché non c'è un magistrato licenziato. Però tu hai detto la magistratura italiana è una schifezza, cioè i magistrati allora italiani. Ragazzi, andiamo a dibattimento e parliamo dei giudici che hanno fatto le peggiori schifezze, che in un'azienda privata qualsiasi sarebbero stati licenziati, al massimo invece sono stati trasferiti da una città all'altra. Cioè tu parlavi non di tutti i giudici. Non esiste. Ma no, ovviamente, così come non tutti i giornalisti sono quelli come che Parenzo, indagano su Rixi. Sono quelli che indagano sui suoi, capito? Ma è facile. No, io ho chiarito che se qualcuno dei miei sbaglia non aspetto il giudice, lo prendo. Ma e allora aspetta di vedere come si conclude il procedimento e poi giudica. Ma non è che siccome stanno indagando i tuoi che ti incazzi. Non sto parlando della Lega, sto parlando di quel giudice, ad esempio, che ha condannato il tabaccaio padovano a 2 anni di galera perché si è difeso ed è stato attaccato perfino dal vescovo di Chioggia. Continuate ad alimentare odio. Quel giudice dovrebbe cambiare lavoro. Quel giudice dovrebbe cambiare mestiere. Cioè è una schifezza quel giudice, dici? No, beh, non quel giudice, io sottoscrivo parole per parole. Ma parole, un giudice che ha emesso una quel sentenza, giudice, lo stai mettendo nel mirino. Cioè va preso a pedate nel sedere quel giudice. No, l'ho messo nel mirino, io poverino. Lo state mettendo nel mirino. Un tabaccaio che si difende e ti devo dire bravo, ti do la pacca sulla spalla, cambia mestiere. Cioè per cui la scorta che hanno dato secondo te è sbagliata? No, è sbagliato minacciare. Io meglio la scorta al tabaccaio. Una sentenza sbagliata. Punto. Auguro lunga vita al giudice facendo un altro lavoro. Però scusa un attimo, la vicenda Rixi, quella delle spese, eccetera. Io ho visto un po' di carte. In realtà sono cose che voi contestate sempre. Cioè, pranzi a Nizza con le ostriche, viaggi in montagna, gite fuori porta nel weekend, Pasqua, primo maggio, eccetera, tutte quante intestate. Poi lui ha rimborsato. Io ho buttato fuori e non ho ricandidato. deputati, senatori, assessori, consiglieri. Le persone le conosco. Edoardo Rixi lo conosco, vabbè, e per come lo conosco non si è messo in tasca un centesimo, se non giustificato da attività, non alla Marino per intenderci, i pranzi a Capodanno. Da attività legate ho capito, alla, ma la magistrata no, ho capito, però ognuno si può fidare di Salvino, si può ma nel weekend Salvino, nel weekend perché spese ma nel guarda weekend? Che non so come capita a voi, se uno fa politica seriamente il sabato e la domenica lavora di più del lunedì e del martedì. Però scusa, io tu dunque c'è un complotto contro l'X da parte della magistratura, no, secondo che te complotto, cioè no, lo vogliono complotto fare fuori una, diciamo, cosa contro la Lega? No, non sono un complottista, non credo alle scie chimiche o a quelle cose lì. Dico molto semplicemente che se mettessero lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno a indagare su Monte dei Paschi di Siena e su Banca Etruria, dunque, probabilmente che cosa farebbero un servizio dunque migliore alla collettività. Se poi qualche leghista sbaglia, ripeto, sono il primo a cacciarlo dunque se fuori. Rixi viene, io non so a che punto sia la vicenda, ma se, no, se viene condannato in primo grado lo caccia, ritengo, si deve dimettere non o no? Giudice, non mi eleggo a giudice. Se viene condannato in primo grado si deve, un processo politico. Ma scusa, in Piemonte un processo politico hanno condannato, hanno fatto cadere la regione Piemonte per delle firme false. Ora ci sono delle firme false che hanno eletto Chiamparino e il PD, però vabbè, sono meno false. No, allora, o la firma è falsa o la firma no, è vera. Dire, se viene condannato in primo grado, se si deve Chiamparino al si deve dimettere o no? Si deve, hai una firma falsa? No, non si deve dimettere. No, non si deve dimettere. Ah, nemmeno se è condannato in primo grado. Giusto, ma neanche se mi condannano all'ergastolo. Cioè, nemmeno se viene condannato in via definitiva si deve dimettere dalla Regione Liguria. Non per quello a cui, che gli viene imputato. Ma perché è un suo amico, perché è un suo compagno di partito. Fuori dall'ufficio postale. Ma questo lo dico per altri. Io ho fatto. No, perché dici che è un processo politico? Perché dici che secondo te è un processo politico? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Perché lo stesso errore, se è errore, è errore a destra, è errore a sinistra. Beh, non è insomma, possibile assolvere sistematicamente la sinistra e condannare. Beh, sulle spese, è curioso, però. Sulle spese sono stati equanimi con tutti, perché no, ci sono condanne no, a sinistra come a Matteo, destra. Vai a guardare in Val d'Aosta cosa hanno fatto. Però vai, scusa, Matteo, allora stessa regione Piemonte. Allora vuol dire che Bossi è stato, anche Bossi è stato fatto fuori dalla magistratura in parte. C'è anche appunto la famiglia Bossi, bravo, con le spese pazze. Anche loro sono stati fatti fuori da una specie di complotto, comunque da un processo politico. Io ti posso solo dire che c'è un processo che va avanti da non so quanti anni che non ha ancora portato a nulla, punto. Non faccio l'avvocato. No, però se tu pensi, io ricordo solo il processo alla Lega che è durato 2 anni. Avremmo preso milioni di euro per vendere gli elicotteri agli indiani. Se gli ascoltatori tornano a casa, non adesso in macchina, il figlio di Bossi ha patteggiato, è uno dei due, e digitano processo alla Lega India. Dopo 2 anni di nulla hanno archiviato tutto spendendo non so quanti soldi. Vabbè. Senza neanche chiedere. Però tu devi arrivare alla, devi arrivare alla conclusione che anche Bossi è stato fatto fuori da un processo politico. No, ma perché mi vuoi far dire? No, se lo dici per Rixi sarà pure per Bossi. Io sempre dico che le inchieste contro esponenti della Lega e del centrodestra vanno avanti per anni e spesso volentieri finiscono in nulla. Sì. A sinistra di inchieste non ne vedo. Allora ragazzi, un attimo di pausa, poi chiudiamo con Salvini, 800 24 00 24. Vi ricordo sempre, sbattezzatevi, no scherzo, fate quello che volete, però se volete una mano, 393 71 71 701, noi iniziamo questa grande opera. Il vero nazista è Parenzo, che non accetta i punti di vista altrui. La Zanzara. Allora ragazzi, ancora notizie da Alfonso Mendicino, il signore di Cutro, residente a Reggio Emilia, che ha minacciato il consigliere, tra l'altro della Lega Nord, in Emilia Romagna. Quello che abbiamo sentito al telefono e ha detto che non vuole mandare a fare in culo l'Andrangheta, quello che dice che a Reggio Emilia, prima dell'arrivo dei calabresi da Cutro, non c'era nulla e pisciavano addirittura fuori dalla pisciavano per strada, non c'erano i bagni, non c'era niente. Quello che dice che lo vuole trattare come un maiale, perché i loro maiali lo squartano. Un altro messaggio di minaccia arrivato al consigliere, eccolo qua. Tu sai che politico sei? Il politico del cazzo sei tu. Il politico dei porci, dei maiali, dei comunisti. quello sei tu politico. Tu sei un politico del cazzo. Una cosa molto gentile, Parenzo, no? Una cosa sì, gentilissima. È cresciuto alla scuola di Einaudi, questo signore. Signore di Cutro. Cutro. Il quale però, e questa è la novità, noi vogliamo seguire questa storia passo dopo passo. Per me questo signor mendicino però non mi sta del tutto antipatico. Vuoi la scorta tu, cioè, per me? No, non voglio la scorta. Cioè, non mi sta del tutto antipatico perché uno anche che dice le cose in faccia. Però quando noi gli abbiamo chiesto di mandare a fare in culo l'Andrangheta, questo no, io non lo farò mai, non manderò mai a fare in culo l'Andrangheta. È un'idea tua che io ho appoggiato, come e si poi, sente dall'audio. E poi ha chiuso il telefono. Ma ha utilizzato la figlia piccolissima, credo, la figlia piccola, sicuramente minore, per attaccare questo consigliere regionale in Emilia-Romagna. Senti, ma in audio, cioè con la voce della figlia piccola, una cosa incredibile. Senti. Ecco l'urto. Ecco. Cioè, è cornuto, cioè tu capisci o no? Pazzesco. Ha utilizzato la figlia per dare del cornuto e per mandare a fare in culo, se non sbaglio, il consigliere regionale. Bah. Salvini, tu lo conosci questo consigliere regionale? Tutta la mia solidarietà al consigliere del Monte, ecco. Del Monte, ci vorrebbe sì, qualche Monte. Giudice che va. Cioè, che va cioè, ci sono i giudici. No, ma ci vado anch'io volentieri a parlare con sto tizio. Ci andrò. Vai, Reggio Emilia, c'è un problema. Non c'è da perdere tempo. Questo ci spiegati che la pipì noi la facevamo nei posti giusti prima che arrivasse l'Andrangheta a civilizzarci. L'Andrangheta di Cutro. Lui dice tanto che l'Andrangheta non c'è, per cui figuriamoci. No, c'è. Ma figurati, vuoi che sia l'Andrangheta? Ti rendi conto che noi conviviamo con certa gente e poi dobbiamo occuparci di... vabbè, ho capito, però non è che i processi ci sono per tutto, ci sono sulle spese pazze nelle regioni, sì, e perfetto, ci sono per l'Andrangheta, dai. Sì, ok, perfetto. Questo può essere arrestato cortesemente stasera? È arrestato. Se poi è sì. consigliere regionale. Sì, sì. Se uno... se uno minaccia un cittadino, gli faccio fare la fine del maiale. Ma infatti è stato tutto portato in procura, eh? È tutto no, via. No, ma questo dovrebbe essere arrestato stasera. Sì, non portato per in procura. Alcuna, uno che dice ti faccio fare la fine del maiale. Sì, dovrebbe sì. essere arrestato questa sera. Perché è opinione, diranno. Un cittadino normale non dice una cosa così. No, ma io posso essere anche d'accordo. Adesso, per fortuna il consigliere regionale ha dato tutto alla magistratura e tutto in mano alle forze dell'ordine. Ma cosa aspettiamo? 6 mesi di dibattimento su che fine fanno fare ai maiali in certe zone? No, ma figuriamoci. Ma con noi sfonda la porta aperta da questo punto di vista. Poi tra l'altro abbiamo cercato di farci dire l'Andrangheta fa schifo, va a far culo l'Andrangheta. Ma guarda che in Emilia ci sono sindaci che dicono che sono anche brave persone quelli dell'Andrangheta. Ma dove andiamo con certa gente? Senti una cosa, ma Col coraggio, io a proposito porgo tutta la mia solidarietà al signor Luigi. Chi è lui? Conardi, di 64 anni, che invece è stato denunciato perché alla quarta rapina nel suo bar, no, in provincia di Pavia, ha sparato in aria. Gli hanno tolto i fucili, sì. Ma che sparare in aria, e allora cosa, ha ferito una nuvola? Sì, no, ha mirato alla luna? Io lo sai, però siccome in aria. Poi Davide mi accusa di essere oltre. No, non puoi sparare in aria. Non si può sparare in aria. Dopo la quarta rapina non Pazzo, puoi sparare in aria. Pazzo, non dire cazzate. C'erano i ladri. Non è che non puoi sparare in aria comunque così, ma c'erano i ladri, non è che ha sparato in aria. Ma ho capito, ma non è che le hanno condannato a nulla, hanno preventivamente, per verificare la dinamica di come sono andate le cose. Ho davanti tutto. I carabinieri hanno denunciato mio padre. Sì, ho davanti tutta la notizia. Hanno denunciato mio padre e hanno sequestrato tutte le sue armi. Alcuni fucili sono ricordi di famiglia. Sto pensando di fare il porto d'armi solo per riaverli. Appartenevano a nonni e bisnonni. Cioè, ragazzi, qui questo qua ha sparato perché alla quarta, quinta rapina non ne poteva più. Non è che ha sparato addosso, cosa che per me poteva tranquillamente fare, ma ha sparato in aria. Ora gli ridiano i fucili e non gli rompano i coglioni. Abbi pazienza. Sottoscrivo riga per riga. Ma è molto semplice la cosa. Uno dentro, io ripeto per l'ennesima volta, all'interno della proprietà, se ci sono dei ladri, puoi fare quello che vuoi. Questa è la legge secondo Cruciani e Salvini. Ma non so. Scrivo riga per riga. Non li cioè, puoi, la legge non li puoi rincorrere, con la macchina e sparare. Si può discutere, per me no, però si può discutere anche quello. No, si può discutere. Ovviamente stipendi, se ti hanno ammazzato tua figlia, Tu sostenevi però anche esattamente questo, cioè che ti puoi inseguire uno fuori dalla casa e sparargli. No, non ho detto questo. Sto dicendo nelle edizioni passate di questa radio trasmissione. Ho detto che non è da colpevolizzare. Se uno uno, ma se uno dico, se... qui parliamo di legge, se metterla o no, non la morale. Ma la legge da è sbagliata, va, che si possono cambiare le leggi. Tu sei progressista, sei di sinistra, uno, esatto, che vuole cambiare le leggi, le invece cambiare diventi questo... conservatore. Tu e il tuo amico Salvini le volete cambiare. Il problema in Italia è che le leggi molti giudici non le applicano ma le interpretano, e quindi tu puoi fare la legge più rigorosa del mondo, ma se trovi il giudice che ti trova l'attenuante, poverino, poverina, poveretti, è finita, non puoi manco sparare in aria per far scappare i ladri alla quarta rapina, e allora non so, usa le trombette di carnevale. Senti, ma a proposito, ma c'è un altro tema che dico, vorrei sapere una cosa, ma tu la droga leggera la legalizzeresti? No. Mai, nemmeno, no, la droga le canne. La società e libertà, niente, di drogarsi. Manco le canne. E le adozioni gay, e togliamo la pensione di responsabilità alle vedove. Spendiamo troppi soldi per le vedove, diciamo, spendiamo troppi quattrini. Allora, dai. Allora uccidiamole le vedove. Vabbè, che, ho capito, ma servono, ci sono delle storture pazzesche, c'è gente che ha redditi, proprietà, eccetera. No, ma fammi capire, c'è in discussione in Parlamento il progetto di legge per la pensione di reversibilità alle coppie gay. E lo togliamo ai vedovi e alle vedove. Vabbè, ma dipende anche dal reddito, dalle cose. Se uno è milionario e piglia la pensione di reversibilità, c'è sì, qualche perfetto. Problema. Ma questo c'è già. Beh, nella legge. Sopra un certo reddito te la tagliano del 60, del 70, vabbè, del 40%. Se vedi, le proprietà pure vanno considerate. Contributi versati. Perché fu Mussolini a introdurre la pensione di reversibilità per garantire la natalità, cioè, nel caso mi stai dicendo che mi stai dicendo che Mussolini qualcosa di buono fece? Vabbè, tanto la previdenza sociale l'ha portata Mussolini, però in Italia non l'ha portata Parenzo, i marziani. Vabbè, tanto, no, dai. Capito, Mussolini fece però... tanto, fece tante cose anche buone in altri paesi, no, l'hanno portata senza Mussolini. In vent'anni, prima della folle alleanza con Hitler, delle leggi razziali, aveva operato bene, aveva fatto bene. In vent'anni delle cose giuste le fece, sicuramente. E se, tipo, quali sarebbero queste? Le pensioni? Non sono sommabili. Parlando di pensioni, poi la pensione di reversibilità, chi la... Ma poi che fece di buono? Le bonifiche? Le bonifiche, c'erano intere città, penso alla Latina, che erano i treni arrivavano in orario città. Anche. I treni arrivavano in orario. E poi, ripeto, l'alleanza con Hitler, le leggi razziali, le violenze sono assolutamente... E l'uccisione di Matteotti, il delitto Matteotti che è precedente alle leggi razziali. Ma ragazzi, ma di che state parlando? Ma il delitto, ma è tutto dal nascere, era il fascismo, era fascismo. Il sistema pensionistico, ma chi che se ne frega? Renzi sta smontando. Ma l'assassino di Matteotti, ragazzi, ma la storia. Cioè, era meglio Mussolini della Fornero, stai dicendo? No, guarda, meglio della Fornero è chiunque. Cioè, meglio Mussolini sulle pensioni ha fatto meglio Mussolini, stai dicendo? Per i pensionati ha fatto sicuramente di più Mussolini che non la Fornero. Ma no, punto. Dai, ragazzi, te lo firmo, però. Te lo sottoscrivo. Ma no, dai, su. Ma che, ma no? Ma no, ma dai, non si può fare. È il peggio del peggio. Quando andremo al governo cercheremo di farla processare. Ma chi siamo impazziti come da processare per che cosa? Scusa. Ma processare. Ma cos'è, la Norimberga della Fornero? Ma siete impazziti? Io non ho detto niente, siete perché siete. Siete perché ormai siete tutti quanti. Posso dire che è una legge infame la legge Fornero? Sì, ma processare la Norimberga, il processo di Norimberga, ma processare per cosa? Processare per alto tradimento. Ma non esiste l'alto tradimento, non esiste più l'alto tradimento. E allora introduco nel codice penale. Lo reintroduci, va bene. Ma i gay, secondo te, gli omosessuali, poi chiudiamo, gli omosessuali, tu sei un donatore di sangue, vero? Sì, certo. Secondo te i gay possono donare sangue? Certo. Sì, tranquillamente, senza problemi. Certo, ma ci mancherebbe anche. Ma sangue è un dono anonimo, fa bene a chi lo riceve, fa bene a chi lo dona. Se uno ha una vita sessuale regolare, può essere eterosessuale. Quindi anche un rom. Se dona sangue, anche un rom. Beh, se certo. Dona sangue, fa solo un bel regola. Sei in regola con le analisi. Tu, però scriveresti sopra da chi viene il nome? Ma cioè non anche l'etnia, non dire cazzate, dai. Il gruppo etnico. Il bello del dono del sangue è che è anonimo, le mie scelte possono andare anche un delinquente. Meno non male. Al posto, servono. Al posto di Mikhailovic, cosa avresti fatto a Balotelli? Ma sai che non ho seguito che cosa sia successo? Io su Balotelli... Ma diciamo che non si è impegnato molto negli ultimi minuti di Milan. Ma io Balotelli non l'avrei comprato, e avendolo comprato non lo farei mai giocare, lo farei allenare con la Primavera. Dunque Mikhailovic ha tutte le ragioni del mondo a incazzarsi, sì, come una biscia. La vita con Mikhailovic. Cioè in Primavera addirittura. Ti strapagano per fare che cose, capricci, ma dai. Ciao, a presto, ciao. Ciao. Cruciani, ma ti danno l'accompagnamento per tenerti Parenzo? Ma ti danno l'accompagnamento? Ti pagano? La Zanzara. Don't you worry, I'm all right, Jack. We've never had it so good. House in Hampstead, Fallout, Bunker Town, everything we... Caro Cruciani, ho una grandissima paura. Dopo che ha pronunciato questa cosa, questa frase, questa minchia di papa, ho il terrore che tu abbia le ore contate. Spero di no, perché la zanzara è proprio tanta roba. Allora ragazzi, vi leggo l'introduzione al libro Pussycat, casa editrice 24 ore cultura. Sottolineo, allora. Sì, assolutamente, giugno 2015. Molto bene. No, ma io per dirti che, voglio dire, cioè, è chiaro che noi siamo sdoganati da tempo dalla realtà, cioè dalla realtà, no, che è quella della vita. Capirai che anch'io devo ricredermi su alcune cose che in passato ti ho detto, e ringraziare il nostro gruppo editoriale che si occupa di sesso. Allora, Pussycat, casa editrice 24 ore cultura. 24 ore cultura. Che cosa si nasconde nel vostro giardino privato? La pista di atterraggio o il bicchiere da martini? La cresta del moicano o il francobollo? Mica ho capito. Beh, come non hai capito, pare. Anch'io non l'avevo capito all'inizio, poi me l'hanno spiegato. Ah, ecco. Il bicchiere da martini è la forma della figa, no? Cioè la forma del pelo. Cioè adoro sempre pelo. Questo tuo linguaggio immaginifico che fai sempre. La pista sempre di atterraggio sarebbe praticamente la striscia dritta. Adesso no? Ho capito, grazie. Il bicchiere da martini. Ora ho capito. La cresta del moicano o il francobollo? Un'analisi semiseria sulle nuove tendenze nello stile della depilazione intima femminile, uno strumento fondamentale per affrontare a testa alta ogni piccante rendezvous. Ecco Pussycat. La guida definitiva a un argomento pruriginoso e oscuro. Ma chi è il direttore di questa cosa? Beh, formalmente è Roberto Napolitano. Non dirlo. Un argomento pruriginoso e oscuro. Chi è il direttore di questa cosa? Questo inserto. Ricordaglielo. Un argomento pruriginoso e oscuro che nessun libro ha avuto il coraggio di raccontarvi fino ad ora. Beh, insomma, non esageriamo. Nessun libro, questo è un po' falsa come cosa. Comunque, pieno di libri sul pelo di figa, dai, su. Beh, adesso. Ah sì, dai. Matteo da Milano, vai. Comunque, ragazzi, Pussycat. Voi ce l'avete come la pista di atterraggio o come il bicchiere da martini? Con la cresta del moicano o il francobollo? Adesso non occorre esattamente, come dire, titillare. Mi dispiace, no? Amico mio, titillare. 24 ore cultura! 24 ore cultura, c'è il timbro sopra! Il timbro sopra! Che cazzo! Che è un bel ambiente. Ambiente di Miami. Sì. Matteo, Milano, vai! Ti piace un mondo buonasera. Così? Io sono per il bicchiere di martini. Tu eccone sei per uno, il bicchiere subito di martini. Subito, arriva cioè, non piatto. Sei però per la depilazione allora, no? No. Cioè sei per il bicchiere di martini, cioè sei per il triangolo in pratica. Esatto. Ma non esiste più, non lo vedo una vita il triangolo. Cioè chi è che se la fa a forma di triangolo? Una donna, chiamatemi, donne zanzariane. Siete sempre nascoste, ma so che ci siete perché lo capiamo noi dai vostri messaggi. Chiamateci, ma non se lo fa più nessuno il triangolo, purtroppo, dico, purtroppo. Cioè è in corso una uniformità, come si chiama? Mentre c'è una scristianizzazione, direi una spelizzazione, non lo so, una cancellazione che del nostro. In auge. Ma sì, ma speriamo assolutamente che torni in auge. Ma questa cosa per cui nessuno. No, il triangolo non esiste più. Non esiste più. Quindi sono problemi. Chissà perché il nostro giornale non ha fatto delle campagne. 24 ore cultura, altro che campagne. Pubblicano libri intieri. Pubblicano libri, altro che cultura. Molto di più. Libri! Matteo, Milano, vai. Allora, volevo portare la vostra attenzione. Spero che. Deforestazione. È in corso una deforestazione. No, ho trovato il però, termine. Se uno si mette in sintonia adesso all'ascolto. Sì, non è la deforestazione del pianeta. Immagina, esatto. Esatto, è la deforestazione. È in corso una grande deforestazione. Qui bisogna porre un freno. In tutti i sensi, Matteo, vai. Stavo dicendo, spero che il dottor Parenzo non si incazzi. Volevo portare la vostra attenzione sul fatto che la circoncisione è assimilabile all'infibulazione. Assolutamente. È scemo. Assolutamente. Non è vero, è una balla, questa è una cosa seria. Non è una stupidaggine. Avete detto una stupidaggine. No, è una perché tortura. Perché l'infibulazione è una pratica totalmente illegale in tutti i paesi. Mentre la circoncisione è una pratica chirurgica che viene fatta dai medici in tutto il mondo, no, certo, dagli Stati Uniti all'Europa. Sono due pratiche diverse, perché l'infibulazione è una pratica che va a incidere definitivamente. È una stupidaggine. Lei ha detto una stupidaggine mega galattica, perché non è così. L'OMS, che è l'organizzazione. No, lei ha detto una stronzata. L'OMS. Ma no, ma perché uno da una. Parlare un attimo, no? Ma se uno. È come se uno. Ma fallo argomentare. Non ti ma non c'è da argomentare se è sbagliato. Perché dici che la circoncisione. Perché l'OMS l'ha riconosciuta come pratica chirurgica. La fanno i medici. Ma anche. Guarda. Ci sono ma anche molte cosa persone che propongono di legalizzare l'infibulazione. stipulazione. Sì, però ragazzi, parlate in ospedale. Ma è una roba Matteo, diversa, non c'entra niente. Il somaro di un somaro. Vuoi parlare un attimo attaccato al microfono? Ma di se quel uno diavolo non di sa, telefono? Perché deve dire? Sono attaccatissimo adesso. Allora, perché quindi, secondo te la circoncisione è come l'infibulazione? Ma perché è una stupidaggine? Una mutilazione. Quindi c'è, ma non è così. Mi fa parlare un Beh, allora Ma no, essere... è una stronzata. Scusa, è come se lei dicesse l'Italia è una repubblica democratica fondata sul bubù. Non c'è scritto questo, è un'altra cosa. L'OMS conta o no? L'OMS, beh, sa cos'è dipende. La sigla OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità? Ma lei deve tagliarsi i capelli, così si circoncide pure lei. Non ce li ho. Allora, stai dicendo che appunto siamo perché è già circonciso alla testa, perché evidentemente è una testa di cazzo anche lei, che non capisce. Lei, dottore. Pubblicità, mamma mia, i somari. Se tu dai la parola a un somaro, è evidente che succede questo. Quando si parla di ebrei ti scaldi sempre. Ma no, ma perché sono dici un'inesattezza. Ma no, ma l'inesattezza le diciamo sempre, però lascia parlare, no. Poi contesti, dai. Più Natania, meno Parenzo. La Zanzara. Allora, abbiamo chiuso questa querelle, Matteo, o no? Matteo? No, assolutamente, assolutamente no. Qui c'è il diritto di un essere umano di mantenere l'integrità fisica e di non essere mutilato. E ma non è una parte, mutilazione. Riti arcaici. Questo non capisce che non è una mutilazione. Ma secondo lui sono riti arcaici, anch'io questo la penso lo così. Posso dopodiché sul tranquillamente, piano, ma non è una mutilazione, cioè sbaglia completamente. Beh, io rispetto al non bambino. Sa neanche come che cos'è. Se uno glielo chiede, come che cos'è? Definisce? Ma che come cos'è? Che cos'è che si taglia? Ma come la definirebbe? Che cos'è che si taglia oltre alla il sua freno, testa nel caso? Nel freno, suo caso si taglia la testa a lei. Perché il frenulo, dice, di il cazzo. Dice il frenulo. Dice il frenulo. Come mai i chirurghi praticano la circoncisione sanitaria? E in America lo praticano il 90% degli uomini, anche se non sono di religione ebraica e anche se non hanno problemi allora, con i cialei all'uccello. L'ha spiegato un ascoltatore. Una donna infibulata non viene menomata, no, anzi, viene menomata nell'attività esatto, sessuale. Un uomo circonciso, esattamente, il contrario. Ragazzi. Non è una mutilazione. Infatti. Vi saluto. Ho provato a dirlo all'idiota fino a poco fa. Allora, abbiamo con noi una persona che fino a pochi giorni fa sentivamo solo per telefono per invitare il padre a venire da noi in studio. E però abbiamo scoperto, caro Parenzo, che ha scritto un libro che è uscito pochi giorni sì, fa. Bene. Lui si chiama Piero ed è il figlio del più famoso Paolo. Come no? Piero Villaggio, buonasera! Ciao, ciao, ciao ragazzi! Ciao Piero, benvenuto ciao, alla Zanzara! Ragazzi. Ciao, ciao, ciao! Scusate, non posso esimermi da fare subito un appunto sull'ignoranza di alcuna gente fra infibulazione e circoncisione. Bravo. C'è una differenza. Io non sono ebreo e sono circonciso, questo frega poco. E perché sei circonciso? La infibulazione è una tortura, è ben diverso. Sì, sì, no, perché io naturalmente non facevo un paragone. All'inizio dicevo che comunque si tratta di una tortura nei confronti di un bambino. Ma non lo è stesso. Vero. Ma non secondo è una me, secondo me è una ma cosa è una imposta a un bambino. Niente. È una cosa imposta a un bambino. Sulla tortura sono meno d'accordo. No, da tortura no, come ho detto prima all'inizio, no? È una imposizione nei confronti di un ma bambino, una menomazione che viene fatta a un bambino. Non cioè, è una menomazione, è sbagliata la parola. Ma no, menomazione no, perché sembra che è che produrre dei danni. Ti posso dire quanto funziona? Vuoi saperlo quanto funziona da circonciso? Quanto c'è funziona? Un motivo se il 90% degli americani sono circoncisi. I tuoi amici attori porno, no, amici, che, no, sono, sì, che sono il tuo punto di riferimento del cazzo culturale, ma non è vero, che hai, ma non gli è attori vero. Porno perché sono tutti circoncisi? Vabbè, quello che fai fare un'inchiesta al Focus del Sole 24 Ore. Tu che hai il tuo mito è il porno, ma non l'attore è vero, porno, ma non è vero, il pisellino, ma non è la vero, vagina, ma non è vero. E F-Ball, ce l'ha adesso, e non ce l'ha. Criticate. Io non so adesso se sia vero o meno, sicuramente comunque la circoncisione come fatto bravo. Di sanità, di essere più puliti, sicuramente bravo. Funziona, poi per il bravo. Resto non lo so sinceramente. No, no, ma a parte per che, uno come te che non si lava, non è il caso di Piero Villaggio peraltro, ma nel caso di Cruciani che dichiara di non farsi il bidet, quindi fa schifo con tutta quella roba roba chiusa sul pisello. Fa schifo perché si sporca di più. Vero. Sei uno sporcaccione all'ennesima potenza. Chi è circonciso può anche non lavarsi per un giorno, cosa che io invece faccio ogni giorno. Mi dovrei far circoncidere. Se vuoi continuare a non lavarti come un maiale, come dici di fare tutte le volte, dovresti circonciderti e anche tagliarti i capelli. Vabbè. Fatto insieme, rassemblamon, fai i due tagli, uccello e l'altro Piero, uccello. Piero, benvenuto alla Zanzara, Ignazio. Grazie a voi. Lo vedi che ambiente, che ambientino. Sì, allora, sì, com'è stato voi papà? Voi volete bene, penso se no. Beh, quanto mi fa arrabbiare com'è stato, la sua papà? Superficialità proprio. Allora, ditemi. Papà come sta Paolo? Compatibilmente con le sue malattie e tutta la sua patologia, abbastanza bene. No, perché siccome l'altra volta ti abbiamo chiamato, ho detto sta male, ci siamo preoccupati. Purtroppo lui non lo sai, ha un diabete che non si cura. E vabbè, quello e d'accordo. A volte ha la glicemia che schizza dei livelli altissimi. Cioè, ma non siamo in situazione di pericolo adesso, no? No, pericolo no. Però insomma, ecco. Vabbè, c'ho 84 anni, diabete, eccetera, bravo, eccetera. 84 anni e tutto il resto, certo, se ma lui è a si casa, curasse un è a pochino casa. Di più farebbe meno fatica. E ecco, in che cos'è che non si cura? Spiegami. Beh, niente, non cura se stesso. Non cura se stesso. Adesso io non vorrei parlare sempre di lui, ma purtroppo non cura se stesso. Cioè, se lui facesse solo caso a quello che mangia... o a come prende le medicine invece che prenderle come caramelle, sarebbe già un passo avanti. Ma non c'è nessuno che glielo dice, no? Di essere quello che non è, ma però un pochino per di volersi un po' più bene, solo per se stesso. Ma poi, scusa, non c'è nessuno che glielo dice, che gli dà... In continuazione, mia madre sta diventando matta, poverina. Però fa il cazzo che vuole, come sempre. Assolutamente quel cazzo vuole, un po' lo conoscete, no? Ma no, figuriamoci. Assolutamente quel cazzo. Allora, perché abbiamo chiamato Piero noi? Perché ha pubblicato un libro che in realtà è in pochissima parte dedicato al papà e al suo rapporto col padre. Poi c'è anche quello, ma è soprattutto sulla sua vita. Io è una cosa che sapevo da tanto tempo. Per esempio, c'erano qui persone che si sono stupite. Ma davvero ha passato una lunga storia di tossicodipendenza, Piero? Mi hanno chiesto i miei collaboratori anche. Sì, io ho detto, guardate, ragazzi, quanti anni? 9, io ho cominciato nel 79 e ho smesso nel 84. Com'è che si chiama questo libro? Che titolo ha questo libro? Non mi sono fatto mancare niente. Non mi sono fatto mancare niente. La mia vita all'ombra di un padre ingombrante. Di un padre ingombrante. Per Mondadori, che è uscito il 9 di febbraio. Il 9 febbraio. Ah. Ecco, ci tengo subito a dire una cosa. Ho notato su internet e comunque su diversi giornali che il titolo molto spesso hanno usato... la mia tossicodipendenza colpa di mio padre o tutte sì, cose del sì, genere. Te l'avrei chiesto subito, ecco, cioè tu dai così. Esatto, perché io ho letto la tossicodipendenza è colpa di, cioè mio padre col suo carattere eccetera mi ha praticamente abbandonato, mi ha fatto fare quello che ho voluto ed è stata la causa della mia tossicodipendenza. È così no? Non è così perché sarebbe anche troppo semplice dire colpa sua, non è così. Sicuramente, questo l'ho scritto nel libro, io ho sofferto un'assenza, sicuramente c'è stata una mancanza in un momento particolare della crescita dove, non so se io bambino particolarmente sensibile, ma comunque chiunque credo in una certa età ha bisogno di magari essere più guidato, diciamo così. Beh, dunque un po' di responsabilità gliela dai allora? Ma più... Questo, dico, ecco che magari avrebbe potuto essere un po' più presente, cosa nel quale lui è consapevolissimo peraltro, perché poi in interviste e poi parlando fra me e fra noi due, me l'ha detto, quindi ne è straconsapevole, però tra questo e dire è colpa sua, io povero bambino abbandonato... Però ti vorrei far notare, no, ma questo qua va bene, fai bene a correggere, a dirlo, però ti faccio presente, come sai benissimo, che... ci sono persone che sono tossicodipendenti, che sono state tossicodipendenti in famiglie con genitori molto molto presenti, cioè il collegamento tra l'assenza dei genitori e la tossicodipendenza può esistere come tutte le cose, però ripeto, io conosco persone che per una vita si sono drogate, adesso uso questo linguaggio molto esplicito, con genitori iperpresenti, sì, certo. Certo, ma guarda, anche solo la testimonianza di mia sorella, nel senso testimonianza, mia sorella ha vissuto le stesse cose, gli stessi, chiamiamoli, disagi, tra virgolette, che ho subito io e non ha assolutamente combinato tutto quello che ho combinato io. Questa è la prima cosa che mi No, no, ma certo, ma quella è una questione di testa, di persone che uno incrocia, certo, e di esperienze, eccetera. Ci sono tutta una serie di concause. Ma tu per l'eroina eri disposto a un certo punto a fare qualsiasi cosa? Assolutamente sì. E hai fatto qualsiasi cosa? Ne ho fatte diverse, sì. Cioè hai rubato? Diverse. Sì. Prego? Hai rubato tantissimi soldi, hai rubato a destra e a manco, no? O non avevi bisogno? Sì, anche questo, sì, ho rubato, sì, insomma, ne ho fatte hai spacciato pure, sì? Come? Hai spacciato? No, spacciato no. Spacciato non ho mai spacciato. Io adesso non perché sia particolarmente buono o onesto, non ne ho mai avuto l'esigenza. Ma scusami, posso capire perché ne stiamo parlando? Ma perché che tipo di papà è stato Paolone Villaggio? Papà, peraltro, lui è molto affettuoso, è molto carino, ma ha un modo particolare di far vedere questo suo affetto, questa sua carineria. Cioè? Anche perché mio padre ha un problema con i sentimenti, ho notato un suo un manifestare un sentimento positivo o negativo, tipo voler bene una persona, ecco, lui in questo è stato sempre molto, non arido, molto timido. Ha una cosa in comune con me da questo punto di vista, è veramente una persona timida e quindi ha difficoltà a rapportarsi in questo ma tempo. Secondo te è uno che è incapace di dire ti voglio bene, incapace di abbracciare, incapace di manifestare affetto, diciamo. assolutamente così. Senti, ma siccome parla ogni tanto con noi alla radio per scherzo e non per scherzo, perché poi tuo padre scherza naturalmente, però ogni tanto qualcosa di vero il lo dice, cinismo. ha sempre parlato di della morte, no, come tema. Sì, secondo te come vuole morire? Non lo so, lui come vuole morire non lo so, so che però ha una gran paura della morte, come ha paura, ha paura. Lui ci scherza molto, esatto, ma più va avanti con gli anni e più ha paura di morire. Cioè non ti dice sì, non ti dice se a un certo punto mi vedi che sono completamente rincoglionito, che so sempre che sono andato, soffro. L'eutanasia, non vorrebbe l'eutanasia? Sì, immagino. Ma probabilmente io penso che in una situazione... Cioè non ti ha scritto niente, non ti ha detto niente? Io penso di sì, io peraltro ne sono assolutamente favorevole e penso che... Cioè tu la faresti l'eutanasia a tuo padre se lo vedi soffrire? Beh, se lo vedessi soffrire e fossi certo che non c'è assolutamente alcuna alternativa, sì. Sì, lo porteresti magari d'amore anche. Lo porteresti anche in Svizzera, diciamo, in queste cliniche della... Beh, sì, anche perché qui lo dovrei fare illegalmente. E qui lo dovresti fare illegalmente, è vero, sì. E noi siamo a favore, io e Parenzo. Ma che fa lui tutto? Sì, molto a favore. Che fa lui tutto il giorno, scusa? Appunto, che fa tutto il giorno? Bella domanda. Mangia. Guarda la televisione, si rompe i coglioni, allora vuole uscire, poi però non ha voglia di uscire, fa un giretto. Quando sta meglio, appunto, partecipa, da voi si diverte proprio. E poi gira, fa altre cose, fa partecipazioni teatrali, è vero che lui odia ormai questa cosa di Fantozzi, cioè non sopporta però chiaramente è una cosa, insomma, che ritorna sempre. Credo che lui abbia un buon rapporto con Fantozzi, lui dice sempre è quello che ci ha mantenuto a tutti. E poi, secondo me è più Piero che odia si può dire cinicamente quello che ti ha un po' anche rovinato il denaro che ha creato questa cosa. Fermo là, che ho la borsa, poi torniamo per gli ultimi 2-3 minuti con Piero Villaggio, che gli voglio chiedere una cosa che è riferita alla sua vita, perché poi lui dopo un po' si rompe pure i coglioni di parlare del padre, immagino, no? Siete criminali. La Zanzara. Somebody's gonna hurt someone. Somebody. Before the night is through. Allora, ragazzi, Lercio è sempre meraviglioso, Parenzo, eh? A proposito dei vegani, uccidono esseri viventi. Vegano si fa asportare i globuli bianchi. Meraviglioso. Allora, abbiamo con noi Piero Villaggio, 53 anni, figlio di Paolo, autore di un libro sulla sua vita, ma soprattutto sui suoi anni giovanili di tossicodipendenza e non solo, non mi sono fatto mancare niente. Allora, voglio chiedere a Piero una cosa che riguarda l'eroina. Cioè, che cos'è? Cioè, cosa è stata per te e che ricordo hai dell'ultima, adesso non voglio essere così cinico, come dell'ultima volta che ti sei fatto? Cioè, ce l'hai un ricordo preciso del giorno, del momento, no? Io penso di sì. Allora, che cos'è? Per rispondere alla tua domanda, purtroppo avremo bisogno di 4-5 trasmissioni tutte intere, forse non ci riuscirei neanche. Che cos'è? È qualche cosa che sembra un paradiso, ma disgraziatamente sembra retorica, ma è così, e invece è un inferno. Né più né meno, perché all'inizio sembra che sia la panacea. Perché è buona, perché è una cosa che ti fa andare in estasi. Cioè, perché uno si droga? Ti fa stare assolutamente tranquillo, non sentirti sempre un pesce fuor d'acqua, ti perdi tutte le tue insicurezze, ti senti un'altra persona, ripeto. Però purtroppo non è così. Purtroppo non è così. E il ricordo dell'ultima volta in cui l'hai fatto? Ce l'hai presente? Beh, ero in America, negli Stati Uniti, perché io purtroppo, o per fortuna, non so quello, ho vissuto negli Stati Uniti gli ultimi anni della mia tossicodipendenza, dove peraltro era molto più complesso, perché una cosa è essere tossicodipendente e chiamarsi villaggio in Italia, una cosa è farlo a Los Angeles, dove non ero assolutamente nessuno. E quindi è molto più faticoso, ecco, perché poi sono diventato anche, diciamo, un discolaccio, ecco, diciamo così. Però ricordo bene, l'ultima volta ero in America e poco prima di partire, secondo me sarebbe stata da lì a poco, ho detto vabbè, adesso faccio finta di, adesso mi riprendo un attimo e poi vediamo. E invece fu l'ultima, da lì mi portarono con una scusa, mi portarono in Italia, mi parlarono di San Patrignano, mi ci portarono e mi ci lasciarono. Ma Muccioli ti ha salvato? Cioè, chi ti ha salvato? I soldi? Beh, diciamo, Muccioli? Diciamo assolutamente che con tutto, che io poi non è che ne parli benissimo, sì, e non sono sempre d'accordo con quello che è stato purtroppo San Patrignano e Muccioli, però sicuramente non posso, sarei disonesto se dicessi il contrario. Mi ha dato una grande mano. Ma tuo padre che vizi ha avuto nella vita? Anche la droga? No, quello devo dire di no. Il cibo. Poi lui addirittura non ha mai bevuto perché non beve. Il cibo? Neanche. Cibo, sì, la sua disgrazia. Sarà fatto in tempi ormai, 20 anni fa, magari si sarà fatto una canna, quello non lo so. E tu non ti fai più niente, no? Nulla, manco le canne? Beh, adesso... Diciamo che vuoi dire di no. Vabbè, ma se dici che sei a favore della legalizzazione, ogni tanto ti fa qualche canna, mica un crimine, cioè... No, assolutamente. Ma magari non è carino, non lo so, però io penso che sia, io sono assolutamente per la legalizzazione della marijuana. E ogni tanto ti fai qualche canna, ma dillo, ma che problema? Sì, cioè, io ogni tanto mi faccio qualche canna. Hai 53 anni, non è... rimane, non credo che faccia male, ma bisogna, ecco, parliamoci chiaro, non fa neanche bene, ecco, non è che fa bene. Come tutte le cose, se uno si ammazza dalla mattina alla sera, anche fa di pane, male. Anche di pane, se tu ti mangi un chilo di pane al giorno, forse è peggio di tre canne al giorno. Guarda, ecco, capito. Forse è peggio di tre canne al giorno. Anche la zanzara, se l'ascolti tutto il giorno, ti ammazza. No, quello mai. In realtà, c'è un signore che mi ha scritto: ho giocato contro Piero due volte quando era a San Patrignano. Dovrebbe esserci anche un video. Era portiere ai tempi di Muccioli. Noi ci chiamavamo i Veltri. Chissà se. Non me li ricordo, ma noi avevamo una però giocavi portiere. Sì, vabbè, sì. Ciao Piero, a presto, ciao. Viva villaggio, Paolo e Piero, ciao. Allora ragazzi, andiamo con Riccardo da Roma, vai, 800 24 00 24. Non credo che sia Riccardo da Roma del Riccardo Fan Club, non credo proprio, purtroppo quello si è perso ormai. No, speriamo che lo sia, cioè. Riccardo, dimmi. Sì, Cruciani, ciao. Sì, dimmi. Senti, io telefonavo per dire che tu fai disinformazione, sì, sempre, a 360 sempre, gradi. Sì, sempre, comunque, amico mio. Soprattutto quando parli di veganismo, tu fai disinformazione a 360 gradi. Sì, certo, ma soprattutto io ne parlo... Il top l'hai toccato quando hai chiamato il dottore Tale Rossi. Tale Rossi. Ovviamente i dottori buoni sono solo quelli che dicono le cose che vogliamo sentire. È inutile che tu fai disinformazione, perché per, ovviamente poi fai spettacolo, perché stai in una radio, insomma, che fa anche, diciamo, spettacolo. Ma soprattutto quando hai chiamato quel dottore Marco Rossi per farti tranquillizzare sul fatto che i vegani avevano prestazioni sessuali superiori agli onnivori, e lì hai detto, hai fatto passare un messaggio che è una grandissima cretinata, perché il dottore è stato molto chiaro, ha detto: se si abusa di alimenti che contengono un'eccessiva quantità di fitoestrogeni di soia, allora si può andare incontro a delle carenze dal punto di vista sessuale. Vabbè Riccardo, cosa mi vuoi dire? Scusami, spiegami, cosa mi vuoi dire? Che l'alimentazione vegana non è imbottirsi di fitoestrogeni, quindi è inutile che tenti di far passare un messaggio che... Io non ho tentato di far passare nessun messaggio, mi sono anche scordato dell'intervento di quel medico. Era semplicemente per dire, siccome qualcuno sosteneva che essere vegano significa farlo meglio, meglio. Esatto, la che è una puttanata, che è una puttanata. No, non è una puttanata. Ah, perché tu scopi perché... meglio rispetto ad altri, secondo ma te? Ma non lo dico io. Tu che è sei vegano dato... scopi meglio rispetto ad altri? Ma Cruciani, che non lo dico io, in ma che dai, su. Dell'OMS, ma fate ridere, anche... fate ridere ma i polli, Cruciani, fate ridere i polli. Perché l'OMS che ma che c'entra l'OMS con le trombate, amico mio? Fate ridere. Ha dichiarato 2 mesi fa che il consumo di carne e di semilavorati carnei è cancerogeno. Ma quello che lascia perdere, stiamo parlando di un'altra cosa qui. Uno. Non apriamo questa. Non si può inventare. Non apriamo questa cosa, Riccardo. Acqua al tuo Riccardo, tu, io ti ho fatto una domanda. Difetto, vabbè, lascia perdere. Sei convinto che. Ma che argomentando di cosa? Hai fatto passare, hai chiamato un dottore e gli hai fatto dire, ma come, ma anche non mi dire che i vegani scopano meglio degli onnivori, ma che informazione è? Ma non ti preoccupare, quella, il dottore ha risposto. Ma sai che cosa vuol dire? Allora, secondo te trombano meglio, sì o no? Ma Cruciani, non lo dico io, lo dice la scienza. Ma quale che scienza? Mangia derivati animali. La follia, dai. Prestazioni sessuali, ma va incontro a patologie. Sì, dipende se ti mangi una bisonte al giorno. Se ti mangi un bisonte al giorno, non c'è dubbio. Certo, come ma tutti. Ma tu hai fatto passare che la dieta vegana vuol dire alimentarsi di fitoestrogeni. Ma chi ma non ho fatto detto? Passare nulla, non mi ricordo. Hai fatto adesso. Passare questo messaggio profondamente sbagliato. Profondamente sbagliato. La dieta vegana è tutt'altro. Poi non è una dieta, è l'alimentazione vegana. Va bene, Riccardo. È l'unica alimentazione sostenibile. Io mi stavo soffermando sull'aspetto sessuale perché quello ma che l'aspetto sessuale è un gioco che tu vuoi fare. Va bene, Letizia Milano. Letizia Milano. Pronto? Dimmi cara. Letti. Ecco, allora, io voglio parlare dello sbattezzo, che è una pratica veramente semplice. Io ho 64 anni, l'ho fatta 6-7 anni fa, basta compilare un modulo, mandarlo, io l'ho mandato all'arcivescovo di Milano, perché quella era la mia circoscrizione. Sì. Ero nata in clinica, vista la mia età, quindi non si riuscivano forse a trovare i documenti. Dopo 10 giorni non mi hanno risposto, ho chiamato. Sì. Sono stati, devo dire, gentilissimi. Ma dove? Dove? A Milano. Alla tua parrocchia? All'arcivescovato di Milano, perché essendo io nata in clinica... Cioè tu hai mandato una lettera all'arcivescovato? Esattamente, perché c'è un modulo che ma è incluso il modulo oppure no? Ma non ti preoccupare, adesso noi da domani con le telefonate che avremo cercheremo di risolvere. Se andate sul sito dello sbattezzo trovate tutto il modulo, si compila facilmente e si manda. Se ma noi chiamiamo direttamente le parrocchie, ecco, chiamiamo le parrocchie così almeno scusa, metti la modulistica sul sito a questo punto. Metteremo modulistica sul sito eccetera eccetera, metteremo anche il modo per sbattezzarsi, chiamiamo noi direttamente le parrocchie dicendo signori miei accelerate un po' le procedure perché magari la gente vuole sbattezzarsi il più presto possibile. Letizia, giusto, tu perché l'hai fatto, scusa? Io l'ho fatto, non certo perché, figurati, io sono atea, cosa me ne ma frega. Ma perché l'hai fatto? Perché ti sei voluta sbattezzare? Perché c'è adesso poi sul modulo, soprattutto la modulistica trovi, c'è una tassa che si paga, lo Stato italiano paga per ogni testa battezzata. Ma non credo, dai, ogni battezzo paghiamo delle tasse, dai, non credo, no, dai. No, ti posso assicurare, vai a vedere adesso, io non me lo ricordo, l'ho fatto tanti anni fa. Non è un fatto, io sono atea, quindi mi sbattezzo, perché sono atea, figurati cosa. Cioè, più battezzati ci sono, più soldi prende la Chiesa. Sì, vabbè. Adesso controllo, non credo. Grazie Letizia, grazie, ciao. Allora ragazzi, abbiamo con noi, un nostro vecchio ospite, Parenzo, Grande politologo, grande studioso della politica italiana, del costume italiano. Ricolfi, molto bene. No, il signor Alex Magni, 100% produzioni, pornostar, buonasera, produttore, ciao Alex. Sì, pigliate per il culo, ma intanto due cazzotti me l'hanno data a me, a voi. Ma che è successo, Alex? Io per questo ti ho chiamato, perché ma che Italia è una grulla, ha fatto 300% si sente. Ma aspetta un attimo. Allora, tu hai dato, ho visto le immagini in cui hai praticamente la faccia devastata. Sì, perché io ero lì tranquillo, in produzione, a farmi i cazzi miei, a dire sto imbecille, mi comincia a tirare. Ma chi è questo qua? Chi è questo? È il marito di questa deficiente qui. Ma è una storia di cornuto. Il marito di una che fa le produzioni con te? Sì, che fa l'attrice. Ha fatto 2 film, sì, che poi questa vuole anche... Può essere trombato in privato, capito? Vabbè, ma quello va bene. Non posso andare fino a Ferrara a trombare qui. Ma no, ma non c'è dubbio. No, non c'è, ma io non ho capito. Questo usa la radio per dire aspetta, che aspetta, se ne no. Aspetta, Alex. Professore, ascolta, io faccio alzi mia. No, però aspetta. Non posso andare a trombare. Va bene, d'accordo, però andiamo. Alex, andiamo per ordine. Aspetta, fermo lì. Andiamo per ordine. Deve interessare più che aspetta, perché è una notizia che ha avuto il suo risalto. Cioè, perché il signor Alex Magni è un protagonista del porno italiano, è stato pistato, ma anche lui ha picchiato però questo signore. Sì, che è questo dall'ospedale, capito? Ma come hai fatto? Cioè, il botto l'ho preso io, ma glielo ho reso anche 20 a e questo, che gli hai fatto? Che gli hai fatto? L'ho volato dalle scale, c'ha cioè, trauma cranio, due costole rotte, la spalla, un fenore. Cioè, ma qual è il punto? Che lei si è innamorata di te, questa attrice? Questa qual è? Bravo. Questa voleva trombarmi in privato, capito? Dice, io non gli ho dato il pisello. Detto, vabbè, d'accordo, vabbè, questo l'abbiamo capito. Alex mi rompe l'occhio, è venuto a cercarmi e mi ha trovato, capito? E ti ha trovato e vi siete picchiati? Vi siete picchiati? Sì. Ma con denunce e cose di questo tipo? Ma che ambiente è però, ragazzi? Insomma, è venuto fuori un gran merdaio, capito? Poi c'è 5.000 euro di danni in ufficio, spaccato ogni cosa. Gli ho rotto un piccino in capo, gli ho tirato una scrivania dietro. Ma non siete gente normale. Capo, io voglio dire una cosa, capito? Alex, tu che prognosi hai? Cioè, poi sei in attività oppure sei impedito per questo? Il pisello funziona sempre. Vabbè, quello vabbè, d'accordo, certo, quello non te l'ha toccato. No, ma tirato le bocce. Ma scusa, io sono curioso di capire questa cosa. Nella tua attività, ecco, che tipo di difficoltà hai incontrato? Cioè, per esempio, qualche volta ti hanno bruciato la macchina, cioè sì, 2 anni fa mi hanno dato una macchina, poi come poi lettere anonime, minacce, capito? Ma quello dei mariti incazzati perché fidanzati, mariti, capito? È come se le cercassi io e invece chiamano loro, scusami, e senti, si incazzano con me, cioè sono loro che chiamano per fare le attrici porno e invece poi i mariti fidanzati ogni tanto si fanno girare le balle. Della 100% riconoscano la vive, perché chi è in mascherina ovviamente non viene riconosciuto, ma queste a volte girano senza mascherina, poi mi chiama il marito, dice mia moglie di volta la trombava mia moglie, ma che vuoi a me, ma vaffanculo. Certo. Dimmi un po', i rischi quali sono? Macchine bruciate, minacce, due botte ogni tanto, fa conto 2 o 3 botte l'anno, insomma, in qualche maniera ecco. Come ripeto, e sono loro che mi chiamano, non io loro. Lui ha ragione da questo punto di vista. Non è che è lui che va a cercare. Telefonio, trovo una firma. È un ambientino pazzesco. Certo. Vabbè, Alex, auguri. Ciao, a presto. Ciao. Ragazzi, abbiamo concluso con Alex Magni, grande protagonista della società italiana. Io direi che può essere anche promosso a, non dico editorialista della Zanzara, però a uomo delle conclusioni, delle virgole, dei puntini sulle i, diciamo, che ci riporta un po' sulla terra di quella che è la vita reale, concreta. A domani, 18:30, ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.